è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Extraterrestre, vieni lì a pigliare. Voglio una città in cui ricominciare. Oh, extraterrestre, portali via. Voglio tornare a Milano, casa mia. Diceva extraterrestre, portami via. Sai, Parenzo, io che questa retorica grande Finardi, eh? Sì, ma questa retorica della liberazione, l'ho già detto e lo ripeto, non la sopporto. Non la sopporto questa retorica della liberazione. Non Bologna, è che prima ci quando fosse... vinse Guazzaloca fecero lo stesso nel centrodestra, fine della discussione, andiamo al traffico. Questa retorica della liberazione, come se a Milano prima ci fosse una sorta di cappa. Ma è normale, di dopo 17 anni di governo, di è normale. Di cultura, di arroganza, di volgarità. Ti faccio sentire adesso qualche chicchetta, ecco, qualche chicchetta di ieri sera. Questa è la Zanzara, in diretta da Milano, David Parenzo, con noi Matteo Salvini, eccolo, primo ospite, buonasera. Comunque da oggi c'è più traffico, eh? La città è un po' più grigia, è un po' più sporca. No, la città è nettamente più sporca rispetto a... subito si vede già l'impronta della sinistra. Cominciamo subito. Devo fare notare una cosa io. Ho lasciato stamattina un portafoglio in un campo rom e dopo 5 minuti un islamico di Al-Qaeda me l'ha riportato. Con 100 euro in più. Concetto che io ho devoluto per la ragione della moschea. Berlusconi lotta però, lotta come un leone. Sentilo sul funerale, non sto preparando il mio funerale. Volevo fissare la data del mio funerale, ma nei prossimi giorni ho troppi impegni, quindi rimanderemo. Simpatico però, eh? Triplico le forze, questa è di ieri, eh? Questa volta non abbiamo vinto, ma andiamo avanti. Se volete sapere il mio morale, io sono un combattente. Ogni volta che perdo, triplico le forze. Ho sentito Bossi al telefono, siamo d'accordissimo ad andare avanti insieme e di governare nella direzione di queste riforme che ci mancavano. Questo Berlusconi che poi oggi ha detto ancora: ho preso un gol ma non cedo, vado avanti, ho la maggioranza, eccetera eccetera. Però ieri ci sono state alcune persone che mi hanno fatto venire il sangue al cervello, diciamo la verità. Il primo è Nicky Vendola. Ma è una festa, il signor Nicky Vendola. Senti questa cosa qui: ci siamo liberati dalla volgarità, ci siamo liberati, mandiamo Vendola. È finito il tempo del dolore! Avete mandato un messaggio molto chiaro. Innanzitutto gli avete detto che sono sgradevoli all'udito, che non li possiamo più ascoltare. Vogliamo liberarci dalla loro volgarità! Non li sopportiamo più! Oh, oggi Milano è più gentile, è più sobria. Ma no, mi riesce a provocare più carezzevole. Sbaglia Vendola, ma è evidente che se avesse usato questi toni durante la campagna elettorale, forse il risultato sarebbe stato. Ma è venuto diverso dopo, però. Sgradevoli all'udito lo sguardo, poi scende dal palco e ripete le stesse cose. Ma è una festa, che c'entra? Senti. Fai polemiche inutili. Senti. È tutta Italia. Ha mandato a dire a una classe dirigente che sono sgradevoli. Sono sgradevoli all'udito, sono sgradevoli allo sguardo. Guardateli ora, tutti insieme, sembrano già immagini di repertorio, è un'Italia vecchia e volgare. Ma è un'immagine di repertorio quella che abbiamo davanti. Tu che hai fatto? Hai invitato una persona sgradevole all'udito in studio. È sgradevole allo sguardo. Parli per lui sto tizio qua, adesso voglio dire. Ha preso il bar in Milano, andate e ritorno. È sgradevole allo sguardo. Ah, ma de gustibus, secondo la mia mamma sono anche piacente e piacevole, però non piacerò a Vendola, è un problema suo. Vendola è sgradevole invece allo sguardo? No, è sgradevole che sia uscito rosso dopo che ci hanno menato il torrone con l'arancione per 2 mesi. Sembrava che vincesse l'Olanda ai mondiali, adesso è scomparso l'arancione. Sinistra, Ecologia e Libertà è minoranza anche al Consiglio Comunale di Milano, domina il Partito Democratico. Insomma, però quello ma che infatti pensa Vendola... Milano è più serio. Io oggi ho visto gente in giro col sorriso, gente che si abbraccia, quelli che si abbracciano, tutti che regalano gli abbracci, gente che era molto, non suona il crack, non c'era gente in seconda fila, vigili urbani che davano pacche sulle spalle agli abusivi. È una città più solidale, più aperta, più fraterna. Allora, intanto Gino Strada, voglio farvi ascoltare Gino Strada, uno dei grandi elettori, chiamiamolo così, che ha grande intervistato lettori. A Lombardia Channel, esatto, marchettina buttata no, là, va benissimo, intervistato Lombardia Channel, il quale ci regala questa cosa, questa chicca, sentite, sentite. È una bella giornata, insomma, è una bella banda di delinquenti quella che viene mandata a casa, affaristi, intralazzoni, arroganti, volgari, razzisti, xenofobi. Speriamo davvero un vento nuovo per Milano e non solo per Milano. Il democratico Gino Strada. Allora, questo è il volto gentile di Milano. È il volto, volto gentile, volto educato. Vabbè, se sull'onda dell'entusiasmo si dicono anche delle sciocchezze, banda di delinquenti. Così che poi no, fallo ladri, affaristi. No, ne ha detto, no, ne ha dette sette di seguito. Ha riassunto. Beh, affaristi è un'accusa però, che anche il centro-sinistra ha sempre fatto. In questi secondo anni. Me, lo posso dire. Delinquenti quello non lo direi che dice Grillo, quello che dice Grillo, lo pensano moltissimi elettori del Grillo o Strada? Strada, scusa, no, perché Grillo viene adesso. Ma questo può essere. Grillo viene adesso. Quello può essere. No, che non lo voglio ascoltare. No, lo sai perché? Grillo dice solo sciocchezze. A parte che oggi ha detto ha vinto Pisa Pippa, nel senso che ha vinto il sistema. Pisa Pippa fa parte del solito sistema che non si capisce qual è, cioè i costruttori, quelli che inquinano, che avvelenano. Pisa Pippa sarebbe il sistema, ma secondo il signor Grillo. Secondo Grillo. Il signor Grillo. Grillo, che è un noto politologo e capisce tutto secondo i suoi fan di politica, senti che cosa aveva detto il 4 maggio a Piazza del Duomo a Milano, il signor Grillo. La previsione di Grillo. Senti. Questa città ha già deciso chi deve essere il sindaco. Questi qui hanno un budget sotto i 9.000 euro. Qui il sindaco lo farà una signora che ha un marito petroliere che gli dà 20 milioni di euro. Chiunque può diventare sindaco con 20 milioni di euro. Sanno già chi vince lei. Quale dibattito, quale ago della bilancia? Ha già vinto, perché la sinistra gli ha messo lì un signore di 60 anni che Pisapia, che non ce la fa, che non riesce a una buona persona, ma è lì ha già perso. Questo è Beppe Grillo, capito? Extraterrestre, portalo via, appunto. La portiamolo la via. Puntuta possiamo dire che non capisce assolutamente niente, nulla di politica, niente. Grillo non capisce niente di politica. Condivido. Possiamo dire o no? Ha già vinto la Moratti. Ha già vinto la Moratti, ha già vinto la Moratti. 800240024, sei gli elettori del centro-sinistra, quelli che hanno votato Pisapia dovrebbero prendere a calci nel sedere Grillo, a calci nel metaforicamente sedere. Metaforicamente parlando. Sempre metaforicamente. Salvini. Signor Salvini, è è volgare qualcuno, se ti sente Gino Strada ti viene a prendere. Sono libera molto... Radio 24, ah, guarda che per Gino Strada è una radio volgare, razzista. Sono molto volgare per Gino Strada, probabilmente appartengo a quel tipo di, no, di fotografia. Dai curare. Che ha fatto. Ah, probabilmente sì. Ma scusa, la Lega ha festeggiato quando a Bologna ha preso l'8%? Certo che ha festeggiato. Stiamo liberando Bologna dai comunisti. L'avete detto voi, cioè no, ci ma sta adesso, che no, ma se abbiamo clima... rimproverato i toni sciocchi di Berlusconi e della Moratti in campagna. Sciocchi. Beh sì, quando parlava, se uno dice che chi vota a sinistra è un cretino, secondo me non fa una bella figura. Cioè, è un cretino lui? Se lo dice? Non mettermi in bocca parole che non sono. No, te lo chiedo. Gli ascoltatori hanno capito. Secondo me è sciocco dare del cretino a chi vota una parte diversa. Berlusconi è stato un cretino. No, non dirò mai. Non dirò mai. È stato uno sciocco. È stato uno sciocco. Una sciocchezza. Una sciocchezza. Secondo me altrettanta sciocchezza. È certo che hanno ciuto. Se tu dai del cretino alla metà della popolazione milanese, senza cervello. Berlusconi è uno sciocco. Lo ripetiamolo ancora un attimo. Ancora. Sto dicendo che però non fanno bella figura a coloro che oggi festeggiando danno dei anche al qui presente che ha amministrato Milano per 10 anni volgare e un po' volgarotto. Ma non l'ha tanto detto Pisapia, bisogna dire c'è una differenza tra Berlusconi che dà del senza cervello agli elettori di Pisapia e di De Magistris e Gino Strada che sì, un personaggio importante è un elettore di Milano. Nicky Vendola è il leader del partito di Pisapia. Nicky Vendola è un'altra cosa, certo. Nicky Vendola. No, perché Pisapia non è iscritto a nessun partito, è indipendente. Sì, è indipendente, è la forza gentile. La forza gentile è l'arancione dell'area Krishna di Milano. Con quella mossa disperata scelse Castelli come vice e non lei, signor Salvini? Mossa disperata, lo dico io. Cioè, lo dico, è una guerra interna alla Lega, no? Fu una mossa disperata quella di indicare guerra interna alla Lega. Cioè, cosa c'entra uno noi siamo uomini al servizio di un'idea. Di Bossi. Bella, di questa è no. Uomini al servizio di un'idea. Soldati al servizio di un'idea. Portatori d'acqua. Robert... Portatori d'acqua. E tu che dopo Bossi siete tutti uguali. Non ci sono differenze. Dopo Bossi siete tutti soldati, no? C'è qualche graduato. Cioè Maroni è un graduato. Alla faccia. Cioè, un alto graduato. Cioè, i colonnelli della Lega. Maroni è un grande che ci invidiano. Se fossimo al calciomercato, penso che Maroni sarebbe il Cristiano Ronaldo. Cioè, della ci situazione. Fosse lui al posto di Berlusconi, sarebbe un'altra cosa, un altro discorso, un'altra cosa, un'altra musica. No, Berlusconi è stato eletto. Sicuramente Maroni non avrebbe dato dei senza cervello a chi vota dall'altra parte. Cioè, con Maroni la campagna elettorale sarebbe stata ma un'altra perché musica. Lei mi vuole mettere perché in questa è la abbiamo zanzara. Perso. Ma questa è la zanzara. Ci hanno mandato ma a casa. Hanno liberato Milano dagli affaristi, dai delinquenti, dai trogloditi. Ho capito, dai razzisti, però dei volgari. Oggi Milano è gentile, ma sorride. Non ci sono più le cacche di Cale per terra. Avete visto com'è pulita Milano? Però, da senti, oggi? Su questo abbiamo fatto, su questo abbiamo fatto la giusta ironia. Però voglio capire una cosa: il problema oggi per voi è Berlusconi, sì o no? Me lo dica chiaramente, perché dal profondo della Lega questo si sente, che c'è un problema a Berlusconi anche per voi. Cioè, siete disposti a morire per Berlusconi? Che... No, beh, siete disposti a morire per nessuno. Per Bossi, però, sì. Sono disposto a morire per mio figlio, punto, a caso, poi, no, morire politicamente. Ma la Lega non è nata a destra, non morirà a destra. Dunque non morirete per Berlusconi. Ma ci mancherebbe altro. Noi speriamo che abbia capito la lezione, la mazzata, perché si tratta di legnata amministrativa, e che lui, perché cambiare Gavallo ha un anno, Berlusconi con la L maiuscola, con la L minuscola, acceleri quelle riforme che la gente ci chiede, perché parlano di Danè. Qua siamo su Radio 24, che è molto attenta al grano, noi al cash. Però comunque vabbè. Certo. Beh, Arezzo allora, mi sembra che sia molto radio, attento. Sì, per altre ragioni, però, diciamo. E anche lei però credo sia attento al denaro, no? Beh. È uno scialacquone lei, Gisbini, se no solito stereotipo Arezzo. Detto questo, non mi dica questa cosa. Dopo una sconfitta non cambi, no, non cambi il cavallo in corsa. Quando perdi 3-0, di solito se cambi l'allenatore finisci peggio. Lo dica chiaramente. Ah, questo no, è interessante. Dal mio punto di vista non si cambia l'allenatore, si finisce peggio. Sì, guarda il Torino con la morte. Dunque portate Berlusconi fino all'esaurimento di Berlusconi. Poi lui è grande adulto vaccinato, è il primo partito, sceglierà lui se e come darsi dei successori, delle alternative. Ecco, ma si deve sbrigare. Quello che si deve dare una mossa, no, è il governo che si deve dare una mossa. Tutto nel suo insieme. E qua c'è Tremonti che ovviamente ha i cordoni della borsa. E allora lo dica chiaramente, da Radio 24, dalla Zanzara, Berlusconi sveglia. Dica che si dice Berlusconi, svegliati. Berlusconi? Dai la scossa. Così. Non è che se Salvini dice Berlusconi, svegliati. Berlusconi, svegliati. No, più con più convinto. Non è una notizia. Berlusconi, svegliati. Non è una notizia. No, infatti penso che chi ci ascolta da casa non è una notizia. No? No. Clamoroso, due punti. Salvini, Berlusconi, svegliati. No, secondo me non ci fate i titoli. Saluto a nome della Lega Nord di Orzivecchi. Chi è Orzivecchi? È un paese in provincia di Brescia. Siamo all'opposizione. Ho detto che andavo alla Zanzara. Mi ha detto, mi raccomando, salutaci. Orzivecchi. Si chiama così adesso. Non è che è volgare. Per i saluti interni. Io saluto gli amici e i compagni di Racalmuto. Saluto gli amici e i compagni. Racalmuto, città di Sciascia, peraltro, no? Diamo un po'. Senta, di il TDL potrebbe esplodere, secondo lei? No, però sicuramente mentre la Lega è compatto, l'opposizione è in grado di farla, siamo nati all'opposizione, non ci spaventa fare l'opposizione a Milano, diciamo che probabilmente il PDL, che è sempre stato ad amministrare a Milano non solo il comune ma anche le aziende municipalizzate, l'ATM, l'MM, la Sogemi e quant'altro, probabilmente avrà qualche difficoltà in più, perché sono sempre stati abituati a gestire. Ad avere le mani... A gestire una città come Milano, cioè, che mi pantofole. Sembra che prima dell'avvento di Pisapia comunque qualche tram lo facesse circolare, la metropolitana funzionava, le scuole erano aperte anche settimana scorsa, anche mia figlia è andata a scuola, città in cui ho vissuto per 10 anni. Vabbè, c'è il traffico, torniamo subito. Comunque una cosa adesso, una l'ha detta, non moriremo per Berlusconi, e Berlusconi svegliati soprattutto. Berlusconi svegliati, questo è normale, chiunque lo dice in questo momento, chiunque del centro-destra, adesso che prende AMSIC. Ah, questa cosa di AMSIC, che ci torniamo. È 18:46, traffico, torniamo subito. 800-24-0024. Diceva extraterrestre. Eccoci qui, 18:48, 800-24-0024. Questa è la Zanzara, in diretta da Milano con David Parenzo. Primo ospite Matteo Salvini, europarlamentare della Lega Nord, consigliere comunale a Milano. Berlusconi ha appena detto: devo spiegare quando giro il mondo agli altri leader perché sono coinvolti in 31 processi. Berlusconi torna su questa cosa qui, e comunque Obama mi ha detto, pensa, allora ci sono anche le frasi Obama? Di Obama, mi ha detto, Obama avrebbe detto a Berlusconi, non ti faranno cadere i giudici, sembra, ma sono sicuro che se cadi, cadi in piedi. È la follia, dai. Cioè, adesso io mi aspetto una dichiarazione devi da parte. Dubitare che Obama abbia questa relazione. Cioè, adesso dramma la Casa Bianca, pare via SMS. Cioè, un'altra cosa, lei uno crede dei miei realmente figli in politica lo diseredo, Lei crede realmente che Obama Salvini, lei è una persona per bene. Lei è una persona per bene. Stia serio. Non rida perché lei sta ridendo. Non rida. Mi dica la verità, lei pensa davvero che Obama abbia detto a Berlusconi non ti faranno cadere, ma sono sicuro che se cadi in piedi? Su. Lei ci crede? È vero che giuri sui suoi figli, ci crede? Questo lo fa lei. Lo no, lo fa Berlusconi, no. Non io. Sto dicendo che se è vero come è vero che ogni anno si scioglie il sangue di San Gennaro, allora può anche essere che Obama abbia detto... Questo è quello che ha detto. Essere contro i napoletani. C'è la stessa probabilità, voglio dire. Con tutto il rispetto, quindi sia per San Gennaro che per Obama, ma non lo so. Scusi, un Berlusconi che va a Napoli e promette in campagna elettorale che non comprerà un giocatore del Napoli che si chiama Amsico, non è un po' alla frutta? Mi dica la verità, Salvini, mi dica la verità. Lei ride. Diciamo che quantomeno non ha convinto i napoletani a occhio da diciamo che ha le cozze, allora, per usare, visto che siamo a Napoli. Cioè, Berlusconi è un estremo tentativo, un estremo... Diciamo che visto come è finita la partita Napoli a Milano, probabilmente avrebbe preso più voti se fosse venuto a Milano a promettere che avrebbe preso Amsic. Certo. Doveva venire a Milano. Doveva lasciare Gigi D'Alessio a Napoli e venire lui a Milano. Ha sbagliato tutto. Ma quanto ha sbagliato Berlusconi in campagna elettorale? Molto. Abbiamo sbagliato tutto. No, però mi dica, su Berlusconi. Abbiamo sbagliato tutti. Tutti è sicuro, perché quando si perde, si perdono tutti. Appunto. Però Berlusconi è il primo. È qualcosina sbagliato. Più degli altri. Questo lo dice lei. Qualcosina. Qualcosina. È molto moderato. Poi mi dica. Mi fa risentire Gino Strada. Bossi. Mi dà la carica. Anche a me la carica. Ieri sera anche a me. Ma i fratelli Roma e musulmani li avete già mandati? No, li mancano. Allora Bossi dice: attenzione, Bossi, capo, si metta in ascolto. Per ora va avanti, ma non tranquillamente. Ecco, Berlusconi inizia che vuol dire non tranquillamente? Salvini, lei cerchi di ci interpreti Bossi. Bossi, noi non capiamo non niente. Si interpreta, si ascolta. Vabbè, adesso questa è i tifosi della Roma una volta dicevano: la Roma non si discute, si ama. È la stessa cosa, no? Diciamo che vi aspettiamo domenica 19 giugno a Pontida e quel tranquillamente verrà. Fa lo spottino gratis senza pagare a Radio. Ma perché lei non verrà a Pontida? No, però Pontida. Lei cosa ha di meglio da fare domenica 19 giugno? Sul sacro prato di Pontida. Bravo. Sul sacro. Un'altra cosa, Berlusconi è scatenato. Sono sereno. Quello dell'amministrativa è un risultato che prevedevo, ma non potevamo fare scelte diverse. Avrei potuto vincere in Campania con Mara Carfagna, ma l'avremmo consegnata alla camorra. Berlusconi sta dicendo delle cose incredibili. Forse non sta andando un tantinello in libertà il presidente. Poi un'altra cosa che ha detto. Ha dei dati attendibili. Mi aspettiamo, è una cosa pazzesca. Questo. Uno dei miei figli in politica lo diseredo. Cioè, dunque, esclude che i figli. Cioè... Beh, poveretto, mi metto nei suoi panni di padre. Se fanno passare i suoi figli quello che ha fatto passare a lui, è giusto. Però, che scusi un attimo, signor Salvini, lei ce la vede la signora Marina Berlusconi dopo Berlusconi in politica? Se ne è parlato, eccetera. Pensa che sia una cosa impossibile? Fossi al suo posto, non me lo augurerei, visto il trattamento che è stato riservato al babbo. Ma il paese... A torto, a ragione, non entro nel. No, certo, ma il paese invece se lo deve augurare? Oppure una dinastia sarebbe troppo? Mi sembra una grande imprenditrice, Marina Berlusconi. Dunque, è meglio che resti lì. Meglio che resti lì. Beh, però. Se dei grandi imprenditori, e quando parlo di grandi imprenditori non penso a qualche sponsor di Pisapia di queste ultime settimane, signor scendono Profumo, in campo, ma io lei e, fatto, altri, beh, e altri. Beh, comunque oggi Milano è più gentile, la gente è più sorridente, è più educata. Non ho capito perché è più serena. Lei ce la vede anche i posteggiatori abusivi, oggi sono più tranquilli. Meglio oggi... che rimanga lì, comunque l'ha detto. Ma la Santanchè quanto è stata nefasta in questa campagna elettorale? Dicono molto, secondo me diciamo non. Diciamo che il suo silenzio degli ultimi 15 giorni ha limitato la sconfitta. Beh, questa è buona, questa è stoccatina. Così a occhio, stoccatina. A occhio, ma lì chi ha fatto tutto da solo oppure Berlusconi l'ha lasciata? Ma che ne so, io mi occupo della Lega, che è un partito piccolo, marognoso, abbiamo i nostri problemi, non so cosa succede in casa altrui. Senta, la Moratti, questo è importante. Ho letto oggi, insomma, anche tutto quello che sta intorno alla Moratti ha contribuito, magari un disc jockey, pranoterapeuta, ha avuto buoni consiglieri oppure no? Signor Ronny, Red Ronny. Ha avuto buoni consiglieri oppure... Visto il risultato, no. No, se avesse avuto buoni consiglieri avremmo vinto, questo evidentemente. Uno può anche avere buoni consiglieri e perdere lo stesso. No, non è cioè, tutto questo contorno che c'è insomma. Ma sono state anche esagerazioni giornalistiche. Io la Moratti non la conoscevo prima, ho imparato a conoscerla dopo. Ed è molto meglio di persona rispetto all'immagine che ce n'è mediaticamente. Un po' come Jessica Rabbit, praticamente. Non sono così non so e che Jessica. Mi disegnano così. Senta, la Moratti deve, sono un cultore di questo genere. Ha detto che non resterà in consiglio comunale, commette un errore? Questo sarebbe grave, No, ma perché? È più serio di mettersi. Subito. È commissario straordinario di Expo. Forse. Piccola cosina, forse. C'è un Expo da portare a casa. Quindi. Però è più serio dire no, non me la sento e far entrare qualcuno che fa il consigliere comunale. È corretto, sì, lei si è candidata a sindaco, sì, non fare il consigliere dopo. Quindi è giusto che non Berlusconi, faccia Berlusconi? Vabbè, ma Berlusconi. Anche mi sembra evidente che non potesse sbagliato fare il capolista là presentarsi. No, si è giocato la partita, gli è andata male. Adesso io sono curioso di vedere la squadra di assessori di Pisapia e ho voglia di cominciare a lavorare. Allora, cioè fare l'opposizione. A fare l'opposizione dura, seria, costruttiva. Si collabora con Pisapia, dunque, non è il male. Se Pisapia propone delle cose intelligenti, noi gliele votiamo, gliele appoggiamo. Se propone, cioè, non c'è l'opposizione senza se e senza ma, no? No, non siamo quelli che dicono no, come hanno fatto la Moratti in questi 5 anni. Cioè, se Pisapia migliora la situazione. Se vuole fare dei campi rom attrezzati, lei lo vota? Anche lei aveva detto che si poteva fare. C'è il piano Maroni. Se Pisapia seguirà il piano rom di Maroni, noi lo sosteniamo. Ma ho dei dubbi che segua il piano rom di Maroni, così occhio e croce. E sulla moschea qualcuno del PDL la voleva. Si può fare una moschea a Milano? No, non sarebbe una follia. C'è anche a Roma, moschea importantissima, nessuno si lamenta. La grande moschea, ma la votate o no? Il no della Lega mi sembra grosso come una casa. Quando ci diranno dove, come e quando la vogliono fare, noi saremo in piazza a dire di no. Bene, grazie a Matteo Salvini. Grazie a voi. Alla prossima. Giornale Radio 800 24 00 24. Fra poco anche gli ascoltatori. Siamo qui in diretta di nuovo, caro Parenzo, con la Zanzara, 1917 800 24 00 24. E devo dirti la verità, io continuo a preferire la voce della signorina Maristel Polanco alla tua. Ti va aggiornata. Si va aggiornata. Sentite cosa deve dire. Hai ragione, va aggiornata, ma no, potremmo aggiornarla con un'altra signorina. Lei fare... è leggermente fissata. No, ma non sono fissato, è che è meglio fare annunciare il TG3, che è un telegiornale serioso, importante, di una delle reti principali della Rai, il telegiornale di sinistra, diciamo la verità, un telegiornale di sinistra, bello di sinistra, forte. Beh, bello di sinistra. No, un telegiornale di quelli che si sente riconoscibile, no? Riconoscibile, identitario, così. Diciamo identitario. Dalla signorina Polanco, è meglio che lo annunci la signorina Polanco piuttosto che... Perché non Scilipoti? Aveva un concorso. A proposito, Berlusconi su Scilipoti, no. Sai cosa ha detto? Cosa sì, detto? Non mi toccate Scilipoti. E chi glielo tocca? Quello? No, così ha detto, una cosa incredibile, pochi istanti fa. Comunque, Maristel Polanco, TG3. Buonasera a tutti. In questo momento va in onda il telegiornale di Bianca Berlinguer e ascoltate cosa deve dire. Slitta fine mese la verifica di governo chiesta da Napolitano. Il premier: non mi arrendo, farò aprire i cordoni della borsa a Tremonti. Il governo si dimetta subito, chiede il PD. I nuovi sindaci del centrosinistra già al lavoro sulle squadre. Grillo attacca Pisapia. Berlusconi: abbiamo perso, ma è presto per organizzare i miei funerali. Avanti con le riforme, ho sentito Bossi, intesa ancora salda. Maroni: è stata una sberla, spero che serva. Rimandato il vertice del PDL, che intanto rispolvera la proposta di contributi ai combattenti di Salò. Draghi: per tornare a crescere, manovra correttiva a giugno, con tagli alla spesa non lineari, fisco più leggero e maggiore competitività. Processo Ruby, la difesa insiste, il premier era convinto che fosse la nipote di Mubarak, lei vuole lavorare con Woody Allen. Il referendum sulla privatizzazione dell'acqua, il TG3 nella Valle del Belice, dove un intero paese difende dai privati il proprio oro blu. Se stufi di vederti tutti i giorni alla TV, prometti tante cose che poi non mantieni più. Il mio papà è disoccupato e come si farà? È uno scandalo. È meraviglia, canzone bellissima. È uno scandalo. Perché è uno scandalo? Hanno fatto cantare, è una canzone vera, sì, Parenzo. Hanno fatto cantare a dei bambini, intitolando la cosa Kids Revolution. Chiama il telefono azzurro, allora. Chiama il telefono una azzurro. Canzone contro gioco. Berlusconi. Ma non è un gioco. È come il bambino che è andato sul palco di Giustizia e Libertà lì a Milano, al Palasciarpa, a tuonare contro Berlusconi. Peggio ancora, perché sono ancora più piccoli. Senti, è un gioco. Ascolta, ascolta. Perché sei malato e fai le porcherie, ma noi bambini non vogliamo un padre come te. si vergognino questi signori, si dovrebbero vergognare. Ma è un gioco, ma chi, intanto non sappiamo se davvero sono dei bambini. Perché sul sito non c'è scritto nulla. Ecco, questo, allora, questo comunque, è grave, eh? Fosse tutto, è questo grave. È grave. Fosse tutto vero. Questo è grave. Abbiamo scritto una mail a questi signori, sì, il cui sito si chiama Kids Revolution. Ci hanno risposto in questo modo: mi chiamo Daniel e mi occupo della parte tecnica e promozionale online del video. Le dico brevemente che i Kids Revolution sono semplicemente un progetto musicale. Il video che ha visionato insieme a musica e testi è puramente a scopo promozionale. Seguiranno infatti, se ci sono i presupposti, un video ufficiale in seguito a nuovi brani. Bene. Ad ogni modo, per maggiori informazioni può contattare direttamente l'autore dei testi e delle musiche, genio, il signor Gianni Tirelli. Bravo Gianni. Come bravo? Bravo Gianni, ma secondo me non ha fatto cantare dei bambini. Mezzo criminale, ma che me. Criminale? Perché ha portato i bambini per le orecchie a cantare sta roba. Ma ascolta, è un gioco. Ascolta. Divertissement, divertissement. Sei un buffone, olè. Vabbè, ma dov'è lo scandalo? Non ho capito. Dov'è lo scandalo? Cioè, i bambini che cantano in televisione. Allora, condanna anche lo Zecchino d'Oro. Sì. Cioè, tu condanni il testo delle canzoni, non ho capito. Sentire Gino Strada. Voglio sentire Gino Strada ieri. È una bella giornata, insomma, è una bella banda di delinquenti quella che viene mandata a casa. Affaristi, intralazzoni, arroganti, volgari, razzisti, xenofobi. Speriamo davvero un vento nuovo per Milano, e non solo per Milano. Siamo stufi di vederti tutti i giorni alla TV. Prometti tante cose che poi non mantieni più. Il mio papà è disoccupato e come si farà? Che sei vergogna. Sì, ma ti rendi conto, Parenzo, no? Ti rendi conto di cosa fanno? Diciamo che il testo non è De André. Ecco, diciamo, ma è il una testo vergogna. Non cioè, è De questi André. Hanno fatto cantare dei bambini contro adesso, Berlusconi. Adesso una vergogna, voglio dire. Ma senti, ascolta, ascolta. Ma tu ti arrabbi per il testo o perché sono bambini che cantano? Io voglio capire chi è il capo di questo progetto che si chiama Kids Revolution, perché è un mezzo criminale, diciamo, ah, la verità. Mezzo criminale. Mettere in bocca i bambini. Peggio di Al Qaeda, ma voi, frasi ma del ma genere è criminale. Ma non è che da quando criminale ha vinto Pisapia per caso c'è, cioè, un'aria che gira che ti ha preso, ti è entrato nei polmoni. C'è un ospite però, c'è un ospite. C'è una, allora, quando hai i tuoi ospiti sono sacri per me. Augusto Minzolini, buonasera. Buonasera. Come sento sta? Bene, bene così, però non sento poco poco. Come senti poco poco? Dove ti trovi? Direttissimo! Sto con il cellulare, quindi non... Senti poco? Questa canzone l'hai sentita, no? Non no senti niente, non hai sentito? No, vabbè, te la mando via mail. Vabbè, poi ci farà un pezzo te al TG1. Te la mando così per Kids Revolution, bambini contro Berlusconi. Vabbè, magari ci farà un pezzo al TG1, vedrai. Ma perché deve fare un pezzo al TG1? No, magari no, se la so sente per gli affari suoi, perché deve fare no, per forza ma magari un pezzo farà, al TG1? Magari farà un pezzo al TG1, direttorissimo, è giusto, mi pare sempre giusto. Arriviamo al dunque, dai. Arriviamo al dunque. Senti Augusto, ma da persona che conosce Berlusconi e che l'ha seguito per tanti anni, che consiglio gli daresti adesso in questa fase? Di resistere, di fare qualche cosa, di tagliare le tasse, di andarsene a casa in vacanza? Che consiglio gli daresti? Ma io, se fossi nei suoi panni, resisterei, tenterei di fare in questi due anni che rimangono, diciamo, quello che non sono riuscito a fare, diciamo, fino adesso. Dunque deve resistere, ma... deve andare avanti. Secondo me dovrebbe andare avanti, ma sai, non è che poi è una cosa che capita soltanto a Berlusconi. Se tu vai a vedere adesso, non per fare la solita tiritera degli altri governi, eccetera, eccetera. Però è vero, è un dato di fatto. E la cosa interessante è che in quei paesi le opposizioni non è che nelle elezioni di medio termine, per parlare degli Stati Uniti, o se vogliamo parlare anche della Francia, se vogliamo parlare della Germania, non è che le opposizioni, perché la Merkel ha perso Amburgo, hanno chiesto le dimissioni della Merkel. Questo è un meccanismo tutto italiano, però a quel punto ma perché no l'ha detto Berlusconi. Beh, direttore, anche Berlusconi ha indetto una sorta di referendum su se stesso adesso. Ma sai, uno può fare, cioè i discorsi non vengono mai fatti sulle parole che vengono dette, perché uno può dire questo perché può essere anche una strategia elettorale. Poi è chiaro che i comportamenti avvengono su delle regole ben precise, queste sono amministrative e non sono politiche. Un governo dura tre anni, sì, o dura un anno, ma tutto dipende se è una maggioranza in Parlamento o se non c'è. Sì, però vede, direttore, cioè il Berlusconi ha fatto come D'Alema, ha commesso lo stesso errore di D'Alema. D'Alema alle regionali, quando era Presidente del Consiglio, disse qui alle regionali, infatti, o si... quindi deve andare a casa. D'Alema andò a casa. Detto, ma non è una regola, lì D'Alema fece questa cosa e da quanto... E sbagliò. si sbagliò, tutto l'intero staff di D'Alema. Quindi anche Berlusconi oggi ha sbagliato a politicizzare le amministrative, questo stai dicendo, direttore? No, io credo che lì ha fatto un'operazione, visto che i sondaggi non erano positivi, ha tentato quella strategia. Poi chiaramente un conto è una strategia elettorale, un conto sono delle scelte politiche che riguardano il paese, che riguardano diciamo, ma in questo momento nel centrodestra, Augusto, in questo momento nel centrodestra c'è un'alternativa a Berlusconi secondo te? Secondo me no, in questo momento non la vedo, però probabilmente la puoi costruire, in due anni puoi costruirla, ma soprattutto sai una cosa, detta fra me, non c'è una leadership ancora chiara nel centro-sinistra, perché tu senti parlare di primarie e tutto il resto, che significa che non c'è una premiership, cioè un candidato a Palazzo Chigi conosciuto da tutti, non c'è. La stessa cosa si può dire per il centrodestra, partendo anche da un presupposto. Ma ci sarà Berlusconi nel 2013 se si dovesse votare nel 2013, tu o pensi di no? Io penso che indipendentemente dal come sono andate le elezioni a Milano o a Napoli, quello che può avvenire nel 2013, che a differenza che nelle elezioni del 2006, tu hai due obiettivi, due ruoli possibili, che coincidono nello stesso anno, Presidenza del Consiglio e Presidenza della Repubblica. Quindi è molto probabile che un'operazione che nel 2006 nel 2008 non era possibile, invece adesso potrebbe essere possibile, potrebbe addirittura creare le condizioni, perché cioè Berlusconi secondo te può ancora puntare al Quirinale? Io penso, nel senso, sai, il Quirinale ci vai anche lì, ci vai con i voti che hai in Parlamento. Cioè, ma dopo tutto quello che è successo ancora può puntare al Quirinale? Io la penso come Feltri, gli scandali, le cose, eccetera. Ma io parto da un presupposto, sai, gli scandali sono le cose che tu hai visto sui giornali, poi appunto devi vedere come finiscono i processi. No, questo non c'è dubbio. E allora? Dunque può ancora puntare al Quirinale, secondo te? Io dico che lì tu puoi creare una condizione per cui è un ticket in cui metti quello che può essere la leadership del domani del centrodestra e poi dare leadership diciamo, del centrodestra e Berlusconi al Quirinale. Puoi avere poi dall'altra parte tutta la capacità di elettorale, di consenso e di tenere insieme uno schieramento che continua ad avere Berlusconi. Adesso facciamo una domanda però che riguarda anche Augusto Minzolini, ma il destino di Minzolini al TG1 è legato a quello di Berlusconi? Cioè finito Berlusconi finisce anche Minzolini al TG1? Magari va al TG3 Minzolini, che ne sappiamo? Ti faccio una domanda, con Friotta. Come? Friotta quanto è durato? Un anno e mezzo in più, quant'è? È durato Prodi o no? Più o meno. Ah, sì, quindi tu durerai quanto Berlusconi, questo dice? No, nel senso che queste sono purtroppo, diciamo, le leggi della Rai. Cioè, appunto, cioè, via Berlusconi vado via anch'io. Potresti andare anche al TG3 un domani, no? No, ma infatti non è uno scandalo, secondo me. Cioè, però tu sei consapevole del fatto che una volta che Berlusconi non ha più in mano le leggi del governo, vai via dal TG1, o no? Ma sai, nel senso, è una cosa, diciamo, io adesso non è che adesso voglio fare un perfetto, purtroppo è la natura di quell'azienda. Non è che ne faccio. Ci sono alcuni direttori, fare ci, anche sono il giornalista. Ci sono alcuni direttori che sono durati anche di più dei governi che li hanno nominati. Uno può anche smarcarsi, dall'area di appartenenza. Se vai a vedere i Rai non è così. Facciamo un esempio. No, ci sono esempi di direttori che anche lo stesso Riotto è durato il governo Berlusconi, è andato via col governo Berlusconi, però sette mesi dopo. Ma quello sì può capitare anche, diciamo, con me, perché poi c'è un consiglio di amministrazione, c'è una cosa, è chiaro che se c'è un elemento, diciamo, che chiaramente accompagna tutta la storia della Rai, del TG1, del TG2, del TG3, in tutti questi anni, è che normalmente lì si riflettono gli equilibri che ci sono. Senti, l'iniziativa dei magistrati adesso sull'intervista... Sei d'accordo o no? Ma che figura? Io un po' meno, perché penso che le notizie siano indipendenti da chi governa. Stiamo parlando delle nomine. Io non dico neanche giusto, sto dicendo soltanto che purtroppo... È così. Però è interessante sapere questo, Augusto. Il tuo destino lo vedi legato a quello di Berlusconi da questo punto di vista? Io non lo vedo legato. Alla Rai. Io non lo vedo legato. Io so quali sono i meccanismi che si mettono in moto in quell'azienda, che dipende direttamente dagli equilibri che esistono in Parlamento. Quindi, siccome sono stato nominato dalla maggioranza che governa il paese, io rispondo a quella maggioranza. No, non ho detto questo. C'è lo spoil system anche alla Rai, questo vuole dire. Dunque è normale che una volta che non c'è più il centrodestra sono consapevole che possono non essere più il direttore del TG1. Non dico neanche che sia normale, dico che purtroppo con tutto tutti i limiti è un dato di fatto. Sì, è un dato di fatto, certo. E allora, cioè, dire una cosa, diciamo, fare le anime belle, quando in realtà poi tu vedi che tutta la storia della Rai è caratterizzata, certo, da questo comportamento, spoil system, diciamolo, spoil system, da questi meccanismi, è ridicolo. Ecco, però è anche ridicolo rimanere alla Rai. Tu, per esempio, una volta fuori da TG1 rimani alla Rai o te ne vai definitivamente? Ma questo non te lo so dire, cioè io so che Riotta, se non avesse trovato un'altra, parlo di Riotta perché è un amico e perché almeno uno se diciamo si toglie dall'ipocrisia, perché è l'ultimo, anche perché è l'ultimo, su. Ma lui stava andando a fare il corrispondente degli Stati Uniti, poi ha avuto per la Rai, dice, per la Rai. Allora, abbiamo la borsa, tu non hai altri due minuti, no? Oppure c'hai, hai il TG1? Sì. No, ti do due minuti, te li do, però velocemente. Dai. Sì, dopo la borsa, ho la borsa, però, che è molto importante. Borsa e pubblicità, 800 24 00 24. Sì, casomai ti richiamiamo, che ci sono 3-4 minuti, tra poco. Eccoci, eccoci, 800 24 00 24. Questa è la Zanzara. Il signor Minzolini era impegnato ai giardini del Quirinale. Non so in che cosa, vedremo più avanti. Sì, TG1, come giardini? Era ai giardini del Quirinale? Sì, pare di sì. Ha andato a fare un sopralluogo per Berlusconi, si vede. Sta già preparando. Adesso non è che non ha detto che sempre per Berlusconi. Ha dato una notizia alla tua Zanzara, no? Ha detto che immagina questo ticket. Una notizia, domani la troveremo su tutti i giornali, l'apertura dei giornali. Minzolini, due punti. Berlusconi può ancora puntare al Quirinale. Ha dato sta notizia. Lui era al Quirinale. Casualmente, come mai era al Quirinale, Minzolini? Ci sta preparando. Andato a fare un sopralluogo, evidente. Già a preparare le stanze, gli arazzi, le cose. 800 24 00 24. Ma io avevo detto di rientrare con la canzone dei bambini, ma fatemela sentire ancora, no, questa vergogna. Fazioso, ma che vergogna? I bambini che cantano. Vergogna, bambini che mandala, cantano. Mandala. Se stufi di vederti tutti i giorni alla TV, prometti tante cose che poi non mantieni più. Il mio papà è disoccupato e come si farà? Faccio notare che Parenzo la sta cantando e ballando. Voglio regalarla a mia figlia questa. Voglio che tutto l'asilo di mia figlia la canti alla festa del fine anno. Ma stai dicendo sul serio? No. No, però è divertente. È ovvio che non sto dicendo sul serio. Però non mi pare uno scandalo. A tua figlia faresti cantare "Sei un buffone", no, "Sei un buffone" a Berlusconi? No, non farei cantare la parola "vergognati". A mia figlia tu, non farei dire parolacce come faccio, allora, di merda. Un non signore, farei dire parolacce a mia figlia. Un signore dice "Perché non avete chiesto di Elisa Isoardi?" Sì, gliel'avremmo chiesto, ma prima eravamo d'accordo con 20 minuti per restare con noi 20 minuti, poi è finita la 5 lì, minuti. Minzolina, lì a Quirinale, se sopra torna, vedremo. Un'altra volta che torna nei prossimi giorni, quando rifaremo, gli chiederemo tutto quello che volete. Non ci rompete le scatole. Ma questo è i bambini a Berlusconi, eh? Il problema non è Berlusconi, sono le parolacce. I bambini non devono dire parolacce. Questo, ma cosa c'entra Berlusconi? Perché Gig Robot d'acciaio? Uno può cantare Gig Robot d'acciaio? Ma che c'entra Gig Robot d'acciaio? Che c'entra Candy la politica? Ma non Candy, hai argomenti Candy, per questa esempio. Cosa? Ti stai inventando Candy. Qualcosa cosa che non esiste? Ma qual è il... Dov'è? Come direbbe Saluzzi, dov'è il reato? Ma dov'è il reato? Mimmo da Torino. Dov'è il problema? Dov'è? Chi è Mimmo adesso? Un ascoltatore da Torino. Scusa. Mimmo, dica. Grande Mimmo. A me piacciono molto gli ascoltatori. Buonasera, dottor Cruciani. Dica. Volevo solo utilizzare il suo mezzo ascoltatissimo per fare i complimenti al Cavaliere. Sì, bene. Che riesce sempre a fare le sfide, a vincere le sfide impossibili. Beh, per adesso l'ha persa questa sfida delle... Ma guarda, è riuscita a disperdere un patrimonio che credevamo molto più solido. Sì. Ha fatto vincere quelli che non volevano manco vincere, se no non sarebbero partiti. Che non volevano vincere, non lo so. Cioè, che abbia dilapidato un patrimonio di consensi, di voti, e su questo non c'è dubbio. Per sono partiti spaccati, quindi non avevano nessuna intenzione di andare a vincere. Ma non sono partiti spaccati, il Partito nelle primarie il Partito Democratico in alcune città ha avuto grandi problemi come a Napoli, oppure è stato sconfitto come a Milano. Dopodiché a Napoli e a Milano hanno trasformato un candidato anche nel loro candidato. A Napoli, certo, il Partito Democratico in questo momento è all'opposizione, anche se poi vedremo la composizione della Giunta De Magistris, eccetera. A Napoli è venuto fuori un Masaniello. Ho capito, ma poi il Masaniello si deve confrontare, per carità, poi le immagini, le fotografie, il modo in cui vengono raffigurate le persone va benissimo, anche le sintesi. Poi però bisogna confrontarsi con l'amministrazione della città e vedremo quanto di Masaniello, che certamente c'è stato in De Magistris, e poi resisterà nell'amministrazione concreta e quotidiana delle città. Al di là della figura, no, che al di là della figura di De Magistris, che viene un po' derisa, presa in giro, Masaniello, guarda. Ma se, e se fosse davvero l'uomo della rinascita di Napoli? E se i napoletani davvero hanno detto, beh, lui può essere quello che mette a posto le cose e finalmente riporta un po' di legalità, un po' di pulizia in una città che si sono pappati i politici da 20 anni. Napoli se la sono pappata i politici di destra e di sinistra. Se questo outsider fosse davvero l'uomo, non dico del miracolo, ma di una rinascita di Napoli, dovremmo essere tutti contenti come italiani, questo dico io. Amedeo da Roma, buonasera. Buonasera. Dica. Niente, sono felice. Amedeo, lei è felice, Amedeo. Perché è felice? È bravo lei? Sto Amedeo, mi piace. Amedeo. Felice perché ha vinto la sobrietà contro la volgarità. Ah, bene, lei è di quelli che pensa che ha vinto la sobrietà contro la volgarità. Io penso che quello che ha detto il direttore di Emergency... Gino Strada, sì, una cretinata ha detto, però... Ha detto una sciocchezza, lo sa, no? Lei lo sa che ha detto una sciocchezza, sì. Da tanti che dicono un sacco di cretinata. Ma sì, ma infatti molti altri dicono cretinata, anche Berlusconi dice altri cretinata. In questo caso l'ha detta Gino Strada. Sì, effettivamente sì. Però devo dire che è abbastanza comparate con quelle che sento dire dai borghezzi. Ma perché bisogna sempre però fare... Però non è che brigante cioè, mezzo. Appunto, cioè non è che se ha detto una stupidaggine Gino Strada, scusi, l'ha detta. Un po' di volgarità, secondo lei, non c'era dall'altra parte? Ma che vuol dire la volgarità? No, ma rispondo a questa domanda, secondo ma lei... Ma ci sono persone volgari da una parte e dall'altra, se andiamo a vedere... Ma male io qualche anno fa la porchetta in Parlamento? Ma che c'entra? Quella è un'altra stagione, era la mortadella del signor Gino Strada, era un'altra stagione... Gino Strano, sì, Gino Strano, sì. Strada, cioè, passato a Fini, peraltro. Come? Però io comunque sia con tutto il pelo che lei ha sullo stomaco, che dice sempre io di molto avere, sì. Lei se ne vanta tanto, a dire la verità, di avere abbastanza questo pelo. Sì. Vabbè, però non si scandalizza di niente, non si indigna no, di niente. No, delle cose dei bambini utilizzati, quattro ragazzini che cantano una canzone. L'utilizzazione dei bambini mi scandalizza, sì, questa è una delle poche cose che mi scandalizza, sì, e l'utilizzazione. Scandalizza allora anche quel programma che fanno sulla Rai che i bambini cantano le canzoni dei grandi, cose assurde. Ma cosa c'entra? Quello è un format. Abbia pazienza, no, ma vediamo. Ma cosa c'entra? Un bambino di 10 anni canta Vorrei sentire le tue labbra sul mio corpo, non è che... Ma cosa c'entra? Amedeo, no, possiamo criticare, facciamo una discussione infinita su questi format televisivi, se sia giusto, sbagliato, utilizzare i bambini. Non devono dire parolacce. Senta, dottor Cruciani, le posso chiedere una cortesia? Sì, chiede quello che vuole. Guardi, io la ringrazio tanto che lei a me mi fa conoscere personaggi veramente folcloristici, sì. Sgarbi, Borghezio, beh, folcloristico, Sgarbi, adesso mi sembra esagerato. Tra l'altro io non ci credo che Berlusconi ha detto quello che ha detto, no, perché adesso io veramente si sta dando le zampe. La zappa sui piedi continuamente. Adesso glielo leggo. Non mi toccate, Scilipoti è delizioso. Una persona deliziosa, corretta, piena di iniziativa in tutti i sensi, una persona stupenda. Ambulanza per il presidente. Ma è impressionante, veramente. Deve essere stato folgorato da Mi manda Rai 3. Quando l'ha visto là se l'è innamorato. Ha visto la sua performance ad alti livelli e ha capito che il personaggio collimava parecchio con quello che è il suo modo di portare. Io sono d'accordo, lo sa che sono d'accordo con Berlusconi? Scilipoti è una persona deliziosa, corretta, piena di iniziativa in tutti i sensi. Una persona stupenda. Io penso che abbia ragione Berlusconi. Adesso noi esageriamo, Scilipoti è una persona stupenda. Sì, ecco, dottor Cruciani, che lei ha questa opinione a riguardo. Ma io penso che sia una persona deliziosa. Ma come deliziosa, Scilipoti, come deliziosa. È deliziosa. I contenuti arricchisce gli ascoltatori dopo che l'hanno sentito. È delizioso. Lei potrebbe fare una trasmissione con Borghezio, Scilipoti e Gabbi insieme. Magari. Ma lei che fa? Una gabbia di matti. Distrugge tutto quanto. Altro che quello che ha fatto dei magistri a Napoli. Io penso veramente che troverebbe veramente... Di che passare con la trasmissione, guardi. Grazie Amedeo, grazie. Arrivederci Parenzio. Salute caro. Si è affidata sostanzialmente ad una soluzione fuori dai partiti, una sorta di incrocio fra un angelo sterminatore e una sorta di Masaniello. Questo secondo me è il significato della votazione di Napoli. Il 75% dei magistris è una cosa, diciamo, che mi fa boccheggiare, quindi non posso neanche giudicare del dolore di Berlusconi, è tale il dolore che provo io. Li vorrei prendere tutti a calci nel sedere, quei 65% di napoletani che hanno votato dei magistris personalmente. Calci nel sedere, devo dire, di Ferrara al no. 65% dei napoletani che hanno votato De Magistris, lo ha detto, e poi ha fatto anche un ragionamento dicendo però comunque è un segnale, eccetera eccetera. C'è però la rabbia dimostrata a me quando le persone sono sincere, sì, per carità, mi piacciono però, sempre, ha detto però, io però. Questo voto di Napoli proprio non sopporto l'idea che De Magistris possa aver vinto, e dunque agli elettori di De Magistris darei un calcio nel sedere, naturalmente metaforico, sì, come è evidente. È Ferrara, diciamo, che ha le sue iper. Renato da Venezia, buonasera. Buonasera Cruciani. Signor Renato, dica. Dottor Cruciani. Sì. No, dottore, come vuole. Ho appena fatto i complimenti alla ragazza del suo backstage. Sì, li faccio backstage. A lei. Ma qui non abbiamo, maggior, purtroppo ci sono backstage, però. Qui, comunque, vabbè. A maggior ragione dopo questo inizio scoppiettante della trasmissione, che mi vede completamente d'accordo con lei. Però cosa, Renato, su cosa? Scusi, abbiamo detto tante cose. Su cosa è d'accordo? Abbia pazienza. Sulla prima degli insulti di Napoli, su quella della canzoncina. Ah, la canzoncina, sì. Sì, è una cosa indecente. E poi volevo anche i complimenti a Davide Parenzo, volevo farli esclusivamente per l'imitazione di Cacciari, che è l'unica cosa che lui sa fare bene. Possiamo andare avanti dopo questi complimenti, signor... va bene. No, per il resto volevo intanto stendere un velo pietoso sul resto di Davide Parenzo, perché... Va bene, andiamo avanti. Ma quale velo vuole stendere? Quale velo vuole stendere? Velo pietoso, ma non diciamo, caro amico, non è in viaggio, Vabbè, allora, prendo un vaporetto, lei dice delle robe da banal grande, lei è un banal grande, ha capito? No, non un canal grande, un banal grande. Oh. Enrico, si sta esibendo nella sua maggiore performance. Cioè, questo tutto deve il resto, fare lei, quello che dice sono tutte le stupidaggini. Al cabaret, comunque. Cabaret, sì. Detto questo, rispetto comunque l'idea politica sua. Ci mancherebbe altro. Ci mancherebbe altro. Non, peraltro, in questo caso, idee politiche, anzi, non mi pare che quando è a Padova ci vediamo. Ma per carità, ma Dio me ne scambia liberi. Comunque, andiamo. Dica, signor Renato, sto scherzando. Allora, fare delle dentro scena, cioè il giorno dopo non si può fare altro che fare delle prospettive future. Per me Berlusconi ancora una volta è andata bene. In che senso, scusi? E intanto il partito maggioritario, il maggior partito in Italia resta il suo. Ho capito, sì, resta il suo, certo. E poi Bossi ha perso poco, quindi non lei potrebbe prendere il posto di Cicchitto, guardi con le cose che sta dicendo. La forza che significa di prenderlo per la gola e di... In secondo luogo, adesso Berlusconi deve solamente fare quello che tutti gli dicono, compreso Ferrara, cioè? che io associo a lei nei complimenti, perché come va bene, però Renato, cosa deve fare? Andiamo al sodo, su. Deve governare e fare... Ho capito, ma non è che uno improvvisamente... Non è che improvvisamente uno governa. Anche... Se fino adesso, diciamo, secondo una certa vulgata, ha arrancato, poi naturalmente secondo bisogna vedere... ha fatto un cazzo. Comunque cioè, ognuno ha il suo giudizio. Adesso... Non è che improvvisamente si governa perché uno perde le elezioni. Certo, può essere un'occasione per rinforzare la leadership, per portare alcune riforme. Oggi, per esempio, ha detto una cosa su Tremonti: non è lui che decide. Comunque, la riforma fiscale bisogna farla. Bisogna vedere poi quale riforma fiscale si fa. Dal 94 che lo dice. Che noia, guarda, mi sono annoiato. Ma lui è aiutato in questa sua campagna elettorale da Milano e Napoli, perché se Pisapia e a Napoli i sindaci cominciano a governare, la gente si accorge dell'errore. Ma adesso questo questa è la perché quando i milanesi si accorgeranno, che c'è la lista dei matrimoni gay, le coppie gay. Ma che coppie gay? Ma quale coppie gay? Come no? L'ha detto che ci sarà. Ma va bene, ci saranno un po' di gay, ma è importante che il tram funzioni. Come a Padova, dove il paese di Davide Parenzo. Sì, infatti Zandonato governa da anni senza coppie gay ed è di sinistra, centrosinistra, e la gente valuta le strade, funziona la città, beh, altro che coppie gay. Nei posti dove ci sono stati istituiti i famosi registri per le coppie gay, non c'è andato nessuno. Bravo. Nessuno c'è andato. andato, nessuno. I gay per primi. Sono stati un fiasco tremendo, esatto, questi registi. Per questo è un buon segnale di intelligenza. Ma no, ma perché non gliene frega nulla neanche ai gay, probabilmente. Cioè, non sono così importanti. Chi lo propone, comunque, secondo me, oggi? Sbaglia, perché... Senta, Cruciani, un'ultima cosa. Quello che io dico, il cardinale Tetamanzi, che io apprezzo per certi versi. Anche lui. Come fa a dire ai cattolici praticanti che di votare uno che... No, veramente non l'ha detto, non è che ha fatto una dichiarazione di voto. Non l'ha detto, ma l'atteggiamento è quello, dai. Non è che un cattolico non può votare Pisapia, abbia pazienza, questa pure è una stupidaggine. Scusa, se io sono contrario a aborto, eutanasia, gay, eccetera, ma guardi che le voglio far presente che l'aborto, non c'è una forza politica che è contro l'aborto, cioè sono tutti vabbè, ma ho capito quello che vuole dire lei. È intelligente, ecco, l'intelligenza sua va oltre le mie parole. Vabbè, adesso non esageriamo. La ringrazio Renato. 800 24 00 24, collegamento con la Camera dei Deputati. Micaela Biancofiore, buonasera a lei. Buonasera. Come sta? Simpatica Biancofiore, simpatica, che ne sai che è simpatica? La conosco benissimo, la conosci? La conosco da tempo, la signora Biancofiore. Per i miei elettori, dai, abbastanza, credo. Cosa? Per i suoi elettori? Vabbè, sì, okay. Simpatica, in genere, sì, almeno mi chiamano per nome, non mi chiamano mai onorevole, quindi vuol dire che mi vogliono bene. Signorina Biancofiore. Signora Biancofiore. Signora o signorina? Dopo i 18 anni... Non sono sposata, quindi va bene. Però dopo i 18 anni... No, però è maleducazione. Dopo i 18 anni sono tutte signore per me, quindi lei è una signora. Okay, ho capito. Allora, signora Biancofiore, vabbè, facciamo signora. Signora Biancofiore, però dopo 18 anni. Io ho detto, signorina, ma tu vuoi insistere su questo signora? Signora Biancofiore. Fa un po' di vecchio, però. 40 anni mi sta pure bene, signora. Fa un po' di vecchio, però. Comunque, vabbè, signora Biancofiore, va bene. Signora Biancofiore, ma lei perché ce l'ha tanto con Gasparri? Autoritario, violento? Perché autoritario e violento sono due parole grosse. Autorità, violento. Autoritario indubbiamente, violento non l'ho mai detto, ho detto che usa una violenza verbale, ma perché semplicemente è così. Quattro anni di vessazioni, ingiurie, servizi. Cinque anni. Beh, cinque, è arrivata pure a dirmi addirittura che, insomma, è arrivata ad ipotizzare che io avessi una relazione con un noto ministro che peraltro si era appena sposato. Con chi, scusi? Con chi? Con chi? Non faccio difficoltà a dirlo, col ministro Frattini, ma l'ha detto sulla stampa, cosa che invece, voglio dire, tutti sanno essere mio fratello e quindi non faccio difficoltà a dirlo, questo per la sua eleganza, voglio dire, di Gasparri, che insomma già questo certifica che uomo elegante è. Sevizie personali, hai detto? Che sevizie personali? Sì, no, e addirittura è arrivata a dire che nel mio modo di fare politica, no, anzi peggio, ha detto che io potrei prendere degli psicofarmaci, insomma, francamente. Addirittura. Io ho fatto anche la prova della droga, quella con i capelli, sono stata una... Cioè, lo descrive come una bestia. Beh, è una bestia, no, perché non lo direi nemmeno delle bestie, però francamente diciamo che non abbiamo proprio niente da spartire. È una persona estremamente grossier e che si mostra quotidianamente, puoi dire, molto volgare nel suo modo di fare politica, che non è il nostro, è quello del correntismo sfrenato. Un giorno Fini, che una volta era ancora lungimirante, mi disse una cosa bellissima su di lui: è un fazioso che non vede al di là del suo naso. Devo dire che Fini aveva tanta ragione, si era liberato, non vedeva l'ora di liberarsi dei suoi colonnelli, di alcuni dei suoi colonnelli. Signora Biancofiore, lei non è al Senato, ma è alla Camera. Alla Camera, esatto. Però il signor Gasparri non è l'ultimo arrivato, cioè è uno dei dirigenti principali del suo partito o del suo ex partito. Lei è uscita dal PDL o no? Non ho capito. Ancora non sono uscita formalmente, sto aspettando la direzione nazionale di domani del partito, dopodiché prenderò le mie decisioni. E dove va? Nel FLI? No, assolutamente. Ma figuriamoci, nel FLI. Ha citato Fini prima. No, ma l'ho citato perché aveva fatto una battuta divertente su Gasparri. No, io non tradirò mai Berlusconi, c'è anche un altro modo di fare politica, che è quella etica, morale, alta, e insomma, che guarda oltre... Scusi, però perché le deve uscire dal PDL semplicemente perché non sopporta PDL, Gasparri? Lo ha detto lei, perché questo PDL è purtroppo Gasparri, che il suo voto vale quanto il mio, che non è stato eletto da nessuno, ma è stato semplicemente nominato, che forse non arriva alle 33.000 preferenze che ho preso io 2 anni fa alle europee, beh, insomma, evidentemente comanda pervicacemente tutto ed è riuscito anche a indurre i miei coordinatori nazionali e tanti altri dirigenti a fare le cose che lui voleva, semplicemente. Ma Berlusconi perché non l'ha difesa? Tipo, qualche cosa brutta ha fatto, al di là di quello che dice, che ha detto di lei, per le questioni... Ma non è solo quello che dice, è quello che fa quotidianamente. Lui cerca di piazzare i suoi uomini in tutti i posti di potere disponibili e quindi fa del correntismo sfrenato, che ha ammazzato prima Alleanza Nazionale. E per esempio dove li piazza? Dove li piazza? Mi faccia qualche esempio. L'esempio più vicino, che è quello che ha fatto appunto traboccare la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso nel mio caso, è stato che al consiglio provinciale di Bolzano dell'Alto Adige c'era un accordo nel centrodestra di far votare una leghista, specie il momento ovviamente che aveva caratterizzato le elezioni di Milano, fa facendo fare indietro un uomo che faceva capo alla, diciamo, a me e anche al ministro Frattini, che è un avvocato di grandissimo livello, eccetera, noi abbiamo fatto un passo indietro per permettere appunto che non ci fossero scontri concorrenti di AN, eccetera. Lui contro tutto ha fatto un accordo sotto banco e ha fatto votare il suo uomo solo dal PDL. Vabbè, la politica, contro il PDL e contro il centrodestra. È la politica. Contro... Scusi, no, Berlusconi che dice? Lei ne ha parlato con Berlusconi di queste Berlusconi cose di Gasparri? Ne ho parlato tante volte con Berlusconi, non in questi giorni. E che dice di Gasparri? Che dice? Beh, insomma, io mi riservo di farla rimanere una cosa privata. Però nel privato Berlusconi le dà ragione? In generale sì. Ah, poi su Gasparri le dà ragione? Sulle persone, in generale sì. Cioè anche Berlusconi dice che No, non dice questo, non mi mettete in bocca cose che io non dico. Però nel privato... Non fai dire al presidente, ma sicuramente in generale mi ha sempre dato ragione. Guardi, basti pensare a quello che ha fatto l'anno scorso sempre Gasparri nella mia terra. Berlusconi sceglie due candidati sindaci per Bolzano e Merano, due quarantenni di grido, bravissimi, giovani professionisti, freschi, perfettamente bilingue. Benissimo, siccome a Gasparri non stava bene, fa una lista contro il PDL. Però mi scusi, però le pare possibile che Berlusconi... Le pare possibile che Gasparri va contro Berlusconi? Assolutamente sì, è successo, se lei veniva a vedere. E lui è rimasto, ed è rimasto e capogruppo al Senato. Perché Berlusconi purtroppo è molto più buono di quanto voi tutti lo descriviate. E purtroppo no, ma questo lo capito, ma qui si tratta anche di opportunità politica, voi, però. Ma tanto buffa Mona si dice in Veneto, però. Lui è il capogruppo al Senato, io sono semplicemente una sua coordinatrice. Ho capito, ma se fa una cosa contro l'interesse del partito... Abbiamo la pubblicità, torniamo tra un attimo, signora Biancofiore, 800 24 00 24. Perché dici le bugie? E poi che sei malato e fai le porcherie. Ma noi bambini non vogliamo un padre come te, che non gli importa della gente, pensa solo a sé. Vergognatevi, chiunque abbia messo nelle questi scuole, bambini nelle a cantare suonate queste canzoni nelle scuole, negli asili. Chiunque abbia messo i bambini a cantare queste canzoni su Berlusconi è un imbecille. Ma no, solo perché ci sono le parolacce, però, ma è uno scherzo, è un joke, non le hanno mica obbligati. Comunque, vabbè, magari è un po' di cattivo gusto, però che c'entra? Tante cose deciditi. No, perché stai montando uno scandalo sul niente, è uno scandalo sul nulla. Le parolacce non vanno utilizzate ai ma bambini. Ma sono i bambini, non va... ma non è le parolacce. Ci sono delle parlano parolacce di delle politica canzoni. Di Berlusconi, ma no, senti, ma che c'entra ridono e scherzano? E il coccodrillo come fa non è la stessa la canzone. Il coccodrillo come ma fa? Sei impazzito, non c'è nessuno che lo sa. Si dice mangi troppo, non metta mai il capo. Senti. Ma sono i regimi, le dittature che utilizzano i bambini ancora per scopi politici. Ancora questa storia, perché sposta voti questo. Ma che c'entra I per scopi politici? I bambini che cantano, usati per scopi, no. È uno scherzo, un gioco. Sei un buffone, faccia di merda. Ecco, perché no, sono le parolacce, dai, non funziona. Ma è una vergogna. Comunque, uno scandalo. Le vogliono io voglio uno scandalo internazionale. Nelle su scuole questo. Di Milano voglio da oggi cantano questo. Internazionale. Tu sai che nelle scuole di Milano da oggi cantano questo, capito? Scusi, signora Biancofiore, no. Buonasera. Pronto. Eccoci qua. Scandalo internazionale. Michela Biancofiore, esponente del PDL. Cruciani impazzito. Scandalo internazionale. Voglio uno scandalo internazionale su questo. Voglio uno scandalo internazionale. Scandalo. Voglio. Processiamo voglio la testa, Laia, la testa di chi ha ideato questa canzone, di chi la ha portato questi bambini a cantare canzoni contro Berlusconi. Ma intanto magari non sono bambini, ma è un gioco, hanno cambiato, hanno distorto la voce, magari facendo magari diventare bambini. Magari sono inventati tutto, non lo so, non o credo. Magari sono inventati tutto. Vabbè, signora Biancofiore, sì. Mi dico una cosa, perché secondo lei oggi Pier Silvio Berlusconi e Marina Berlusconi erano a Palazzo Grazioli con il papà? Perché semplicemente sono i figli e volevano stare probabilmente trascorrere del tempo col padre, mi sembra una cosa assolutamente normale. Stargli accanto probabilmente in un momento in cui non sarà particolarmente felice, che insomma se ne dica. Credo non ci sia nessuno scandalo, credo che la famiglia no, nei momenti scandalo. Del bisogno debba stare accanto, no? Perché non è un momento felice? Beh, insomma, certamente non sarà felice all'ennesima potenza il nostro presidente, anche se io credo che insomma la sconfitta sia sempre salutare, che voglio dire sia il sale della democrazia, e che quindi da una sconfitta si possa risalire con facilità se si capiscono certe cose. Scusate, però lei dice, io ce l'ho con Gasparri, ne ha fatte di cotte, di crude, ancora in realtà Parenzo non ha capito cosa ha fatto Gasparri. Io lo capito, cioè Gasparri è il male assoluto. Cioè non ha capito che tipo di Gasparri non è il male assoluto. Non è che ci ha provato con lei, no? Ha perso molto di quel male assoluto del fascismo di una volta. Gasparri è diventato molto democristiano, sa occupare molto bene tutti i posti di potere, ha imparato bene la storia. Guardi, Gasparri è la sua imitazione, Neri Marco Re. Per il resto non c'è molto altro da dire, vi ho già detto che è estremamente grossier, da Brennero a Lampedusa distrugge, fa distruzione totale del territorio. D'altronde è dimostrato, Alleanza Nazionale era divisa in 10 correnti e lui faceva la voce grossa anche lì e si è distrutto un partito intero. Colpa di Gasparri. Ma scusi, domani nelle decisioni che verranno prese da PDL cambieranno anche i capigruppo alla Camera e al Senato, cioè potrebbe cadere anche Gasparri al Senato, ci faccia capire. No, la minima idea, non credo, per quanto riguarda il nostro capogruppo ha tutta la nostra fiducia, quindi no, non mi parlavo interessa del Senato naturalmente. Io sì, appunto, non lo so, non credo che adesso purtroppo non credo. Scusi, però non è che uno che esce. Purtroppo non credo, però devo dire, ecco, qua mi ha dato un assist effettivamente, perché vede. Gasparri è sicuramente uno straordinario capogruppo del Senato, facesse solo quello, basta che si occupi di tutto il territorio, di tutte questioni politiche, se vuol fare il coordinatore nazionale, dica che vuol fare il coordinatore nazionale, ma allora a quel punto non faccia il capogruppo al Senato. Fondamentale, guardi, in un partito che ci siano le incompatibilità, ma devono essere incompatibilità vere, così non si va da nessuna parte. È uno straordinario capogruppo al Senato, lo facesse e non si occupasse. Però le vessazioni, lei parla di vessazione, adesso ci ha parlato delle accuse che le ha fatto di avere una relazione col ministro Frattini, ha fatto sui giornali e con i psicofarmaci locali lassù, insomma in Alto Adige, dove peraltro sono rapporto con Frattini, lo conosco. I psicofarmaci, eccetera. Quali altre vessazioni le avrebbe fatto personalmente? Non è che ci ha provato, no? No, assolutamente. Le ha tirato le palline. Ha fatto delle battute sulla mia avvenenza fisica, questo sì le ha fatte, ma no, non cioè, ci ha provato. Cioè, in che senso? Mi considerava tempo fa, quando ancora non erano così aspri i nostri rapporti, faceva sempre battute sulla mia eventuale avvenenza fisica, cioè, perché quella è soggettiva. Ma che insomma, era un belloccia secondo lui. Ma glielo diceva in faccia. Devo dire che secondo lui, perché poi voglio dire, chiunque mi conosca sa che io non ho che abbia questo concetto particolare di me, quindi voglio dire. Battute fa anche Berlusconi, ognuno... però non è l'unico. Sa qual è la differenza? Che Berlusconi, nonostante quello che si dice su di me, queste battute non le ha mai fatte, le assicuro, mai. Neanche una battuta di scherno, anzi. Però adesso non è che uno esce dal partito così, perché c'è Gasparri. Ma, certo, Gasparri. Ma, non c'è se Gasparri occupa tutte le posizioni e non ti lascia vivere sul territorio, non ti lascia fare politica, è evidente che questo non è il mio partito, il partito di Gasparri e non di Berlusconi. Ma lei con chi va? Con chi va? Non ho capito bene. Io vado da sola, vado nel gruppo misto, se le cose continuano così vado nel gruppo misto, certamente non credo che starò sola per molto tempo. In che senso? Non starà sola per molto tempo? Che vuol dire? Perché sono tanti i deputati che la pensano come me. Ci potrebbe essere una diaspora dal PDL, dice un altro PDL, gruppo. Da questo PDL certamente, poi da Berlusconi un'altra cosa. Da questo PDL sicuramente, da Berlusconi un'altra cosa, questo lo sappiamo. Cioè lei prevede che ci possa essere una fuoriuscita a livello parlamentare? No, io prevedo che ci sono tante persone che puntano ancora e che sono molto legate al Premier e a Berlusconi nella fattispecie come persona, ma che in questo PDL, nell'attuale dirigenza, purtroppo occupata in particolar modo da gente come Gasparri, e francamente non si sentono rappresentati. E poi purtroppo c'è l'involuzione del consenso, perché è vero che una parte di AN si è bruciata il consenso di quella che era la massima per colpa di Gasparri. Lo dica tutto, avete perso Napoli e Milano per colpa di Gasparri, diciamolo. No, lì, ma sicuramente ci avrà messo il becco anche lì, perché non è capace di stare zitto un secondo. Anche Gasparri lo sapeva. Avrà messo il becco anche su quella candidatura sicuramente. Quale? Quella di Napoli, dice lei? Ah, sì, sicuramente. Anche Lettori Gemelle? L'ha fatto sicuramente in Calabria, l'ha fatto a Bolzano, nella mia piccola realtà. Però anche Berlusconi, lei che rimane berlusconiana comunque, voglio dire, Berlusconi in questa campagna elettorale ne è combinata di cotte e di crude, qualche errore l'ha commesso pure lui, lo dica chiaramente, signora Biancofiore. Ma guardi, il problema non è che l'abbia commesso o meno, tutti quelli che lavorano sbagliano, questa non è una novità, non la dico cioè, io. Questa storia delle donne l'ha un po' azzoppato o no Berlusconi? Sì, ma alla certamente fine. Ma perché per il clamore che c'è stato ovviamente. Beh, qualche errore l'ha commesso pure lui là o no? Ma ancora il concetto che è sotto processo e va provato tutto quello che è stato detto su di lui, quindi insomma se siamo garantisti fino in fondo, uno è innocente fino a prova contraria. Quindi Milano e Napoli comunque la colpa è di Gasparri. No vabbè, se non ha detto ma chi dice che colpa di Gasparri, però anche c'è lo Zampino, perché lui manovra nel partito, ma non ha tutti questi voti. Non si preoccupi, non diamogli questa importanza. Su, perché? Perché sennò veramente ne facciamo Cristo in croce. Fate pace. Le mandi un bacio. Di due giorni fa sul Corriere della Sera. Fate pace, le mandi un bacino così. No, difficile, guardi, no, proprio una carezza. Non è questione di fare pace, siamo proprio politicamente divergenti. Io ho un'altra idea di politica, c'è una politica diversa che si può fare in questo paese. E io spero che non da sola, ma con tanti amici parlamentari, giovani e puliti, si possa fare. Va bene, grazie signora Biancofiore. Grazie, arrivederci, buona serata. Sono i bambini, voglio sentire ancora questa canzone, mi voglio, no, mi voglio arrabbiare. Salutatemelo voi. Saluti Gaspar. Auguri ai figli maschi, arrivederci. Se stufi di vederti tutti i giorni alla TV, prometti tante cose che poi non mantieni più. Il mio papà è disoccupato e come si farà? Non puoi difendere questa roba, sarà una trovata. Venga fuori l'autore, questo sì. L'autore venga fuori. E anche quello che ha fatto la messiscena con i bambini e tutto. Perché cioè, non metti lo sceneggiatore in realtà. Perché non metti una taglia? Wanted. Wanted. La taglia cerchiamo della zanzara. L'autore e lo sceneggiatore di questa vergogna. Wanted. Vergogna per me, naturalmente. Non per Parenzo, non so perché. Ma no, odio le parolacce. I bambini che dicono le parolacce. Non mi piace. A mia figlia. Parenzo, io dico a lei a Cruciani che hanno inventato il voice changer. Qualcuno dice. E quello te l'ho appena detto. Hanno distorto la voce. È una trovata geniale. Se è così, vergognati. Perché se è una trovata geniale. L'ho detto sin dall'inizio. Se non sono bambini, è una trovata geniale. Siccome qualcuno mi ha detto che è molto probabile che sia vero. Ma che è qualcuno? La mia redazione mi ha detto che hanno controllato. Ed effettivamente non sembra una cosa taroccata. Però è chiaro che poi voice change si può fare qualsiasi cosa. Non c'è dubbio. Pubblicità, torniamo subito. Diciamo la verità, caro Parenzo, sono i nuovi Balilla della sinistra. Ma non esageriamo. Balilla della sinistra? L'ha ma suggerito un ascoltatore, il Balilla della nuova sinistra. Devi dire che l'ha fatto la sinistra? Vabbè, ma la sinistra genericamente. L'ha fatto un signore che magari ha scritto un testo di dubbio gusto, perché sicuramente non è De André, non è Paolo Conte, ecco il testo. Non è Paolo Conte. Vabbè, dopodiché, non c'è dubbio. Dopodiché, vabbè, falla sentire ininterrottamente. È una canzone anche divertente. Prima sentivo delle dichiarazioni del neo sindaco di Cagliari, ma pare che sia l'intenzione anche di Pisapia, quella di formare la nuova giunta con metà donne. Posso dire che anche questa è una stronzata? Perché? Cioè, nel senso, è una cosa molto politicamente corretta, come dire, è molto scenografica, però non è che necessariamente devono, possono anche essere tre quarti donne. Perché non tre quarti donne? O tutte donne? Dipende dalla competenza. Questo non c'è dubbio. Su questo non c'è dubbio. Per cui non è però che, diciamo che fino ad oggi non c'è mai stata una giunta composta al 50% donne. È sì, un desiderato. D'accordo. Però dire la metà donne e metà uomini è una cretinata. Sì, guardate che siamo brave persone ma preparate. Tu, se tu hai un assessore donna, su 10 assessori che devi fare, ce ne sono 8 brave donne. Per te sono le migliori. Ne scegli 8. No, non ne posso scegliere 8. Questo è evidente. Non ne posso scegliere 8 perché ne devo mettere 5. No, beh, non perché è ho deciso che sia la metà. Vabbè, così non è. Metà così. Donne significa che fai metà e metà. C'è poco da fare. È vero che sono è meno una stupidità. Che le donne che si occupano di politica sono ho meno capito, rispetto agli uomini. D'accordo, ma se io invece ne trovo. Dopodiché, se non mi fa impazzire questa roba, la trovo una cosa. Una cosa che fa scena politicamente corretta. E io dico tre quarti donne. Perché non tre quarti? Perché non tutta una giunta? Perché anche donne? Pisapia non diventa donna, ad esempio. Anche il sindaco. No, anche il sindaco, sì. Ad esempio. Ciro da Ferrara. Buonasera Ciro, che buonasera, mi sembra un ferrarese doc, ecco. Nome Ciro. Guardi, io sto per parlare di Napoli. e sì? Mi chiamo Ciro. Sì. Eppure sono proprio ferrarese, è stata una scelta un po' balzana del papà. Beh, balzana, adesso balzana. Il povero papà, balzana, magari. Papà di origine napoletana, magari, no? No, no, no, nessuno, non c'è nessun motivo. Nessun motivo, però lei si chiama Ciro da Ferrara, va bene. A Ferrara, così quando si dice Ciro, sanno che sono io. Ferrara, perché non è che ci sarà solo lei, Ciro da Ferrara. No, ne conosco pochi, e sono soprannomi più delle volte. Bella città Ferrara, di Sgarbi e di Franceschini anche. Vabbè. Di Franceschini, esatto, vabbè, detto questo. Anche gli altri, c'è gli Estensi, c'è Sgarbi e Franceschini, sono due personaggi anche gli più recenti, più conosciuti, vabbè. E niente, vorrei dire la mia sull'esito delle elezioni amministrative di Napoli, insomma non tanto sulle motivazioni della vittoria di De Magistris, ma piuttosto sulle conseguenze per la città del fatto che il nuovo sindaco sarà appunto De Magistris e non il candidato del centrodestra, come tra l'altro si poteva prevedere, insomma, a seguito del disastro dell'amministrazione Bassolino e Iervolino. Comunque io non vorrei essere nei cittadini di Napoli, almeno per i prossimi 18-24 mesi. Perché, scusi? Non dico questo perché ritengo De Magistris un masaniello, un demagogo, un incapace totale. E perché invece? Dico questo perché ritengo che la risoluzione del problema dei rifiuti richiederebbe un intervento concertato di comune, provincia, regione e governo nazionale. E invece che succederà? E cosa farà Berlusconi, secondo me? Ecco qua il discorso intriso di anti-berlusconismo. Cosa farà Berlusconi? Dice, benissimo, ha vinto De Magistris, adesso io taglio completamente, così, con un eufemismo, non aiuto più Napoli, non intervengo più come ho fatto con l'Aquila, con l'Alitalia, con Napoli 2-3 anni fa quando c'era l'emergenza, poi mi presento alle politiche del 2013 addebitando il disastro. La responsabilità De Magistris. Scusi Ciro, questa qua, la sua è chiaramente fantapolitica, per carità, nella politica ci sono anche gli sgambetti, ci sono anche... No, sa perché glielo dico? Perché me lo dice? Questa è una provocazione, chiaramente una provocazione, però... Io vedo che Berlusconi chi ha aiutato in particolare? Ha aiutato ad esempio Cammarata, ha aiutato Scapagnini a Palermo e a Napoli. Sì. E un amico leghista mi diceva che militante e consigliere, tra l'altro, quindi uno che è addentro alle cose. Che le ha detto, Lega, sì, non ho capito. Diceva che negli ambienti della Lega si sperava proprio che a Napoli vincesse De Magistris, perché significava che il giorno dopo i rubinetti chiudevano. Se avesse vinto Lettieri, questo si sarebbe presentato a Roma a battere cassa e avrebbero finanziato a piedi lista come hanno fatto con Palermo e Catania. Invece, avendo vinto De Magistris, lo lasciano da solo, lo lasciano sì, affondare. Qualcuno, in realtà mi sono dimenticato anche di chiedere a Salvini questo qua. Qualcuno pare, però sa, questa cosa qui è rumors. Sono tutte cose da valutare. Qualcuno nella Lega forse preferiva la vittoria di De Magistris perché altrimenti Berlusconi e Napoli avrebbe dovuto pagare talmente tante di quelle cambiali che aveva firmato in campagna elettorale, compresa la storia della storia delle case abusive, e che insomma il governo poi avrebbe avuto in realtà qualche difficoltà a fare passare queste cose in parola. Io non credo che sia così, perché comunque sa, una vittoria è sempre, è sempre una vittoria, e se ne raccolgono i frutti anche in Parlamento. Grazie, traffico. Sei ricca e prepotente, ma sei solo triste, sai, al cuore di un serpente l'amore non ce l'hai. Devo dire che è un mostro quello che ha inventato questa cosa, però il ritmo non è male, è un mostro, è un mostro, è un mostro. Mi piace o non mi piace? È un mostro, cioè è una trovata, una gag di cattivo gusto, se vuoi. Che... Beh, anche Mladic faceva le sue trovate. Mladic, ma dire, cioè, ma così è un'esagerazione, però ho capito, ma questa qua sono i Balilla della sinistra. Balilla della sinistra. Che c'entra la sinistra? Sì, è un mondo Balilla, vasto. Diciamo i Balilla anti-berlusconiani, non della sinistra. Beh, ecco, questo qua sarà berlusconiano, non ho capito. Magari si chiede, sai. Sì, no, non credo proprio. No, sempre se è vera, questa roba, sempre se è vera questa roba. Francesco da Milano, buonasera, 800 24 00 24, collegato con la Zanzara. Francesco, dica. Buonasera, come andiamo? Come andiamo? Non c'è male, ce la caviamo, su. Non c'è male, sento che ve la state ridendo, la canzoncina è straordinaria, bisognerebbe sapere veramente chi è che l'ha scritta. Wanted, ricercato, la taglia della Zanzara, sceneggiatore della canzone dei Kids Revolution. Che cosa gli diamo a chi lo becca? A chi lo becca un invito speciale alla Zanzara, adesso vediamo, siamo studiati. Ah, sì. Che interviene proprio in diretta lì dallo studio stesso. Sì. Beh, vediamo, allora naturalmente. Ce lo deve portare vivo! Naturalmente vivo. Qui ci sarà pronta una ghigliottina, una ghigliottina. Una garrotta. Una ghigliottina? Alle mani perlomeno, no? Perché una ghigliottina dialettica. Certo, cioè. Alle mani, mani, il taglio delle mani, sì, il taglio delle mani. Dai, via. Allora, io intervenivo piuttosto sul fatto che dopo la debacle, a parer mio, Silvio, sì? farebbe bene a candidarsi come premier dello Stato. Cioè in che senso? Scusi, come premier dello Stato cosa vuol dire? No, mi scusi. Presidente della Repubblica. Presidente della Repubblica. Che vuol dire? Farebbe bene. Non mi pare che ci sia un collegamento tra la sconfitta di Berlusconi e la candidatura al Quirinale. Elezione niente, che è prevista che tra due anni dopo le elezioni politiche, dunque ci sono una tale quantità di variabili infinite. Politiche qua sono naufragate. Adesso, se dovesse andare male anche o bene, a seconda dei punti di vista, il referendum, cioè farebbe bene, secondo me, a lasciare il passo e però attrezzarsi affinché possa eventualmente diventare il Presidente della Repubblica. Vabbè, ma non mi pare una grande novità quella che lei sta dicendo, Francesco. Cioè, no, Berlusconi, se il centrodestra vince... Ascolti, mi faccia finire un attimino. Ho capito, perché, ma lei non dice nulla di sensato, abbia pazienza. Il fatto speciale è che noi avremmo un Presidente che finalmente, invece di fare sermoni e cose, fa gli show, no? Fa dei bei show... fatti di barzellette, di Vabbè, lei lo dice in che modo? Ironicamente oppure perché la divertirebbe una cosa di questo tipo? Ma per un verso, visto che ci siamo abituati, no, a questa condizione di avere un Presidente del Consiglio che va in giro e fa delle mezze figure. Vabbè. E delle intere figure di cacca, però mezze figure le fa. Vabbè, d'accordo. E questo è il nostro rappresentante. Allora facciamo rappresentare a lei a tutto tondo, così Vabbè. Che grazie Massimo dalla provincia di Cuneo. Massimo dalla provincia di Cuneo, buonasera. Buonasera. Dica. Buonasera a lei, buonasera a Terenzio. Ma al di là di quanto sostiene l'esimio direttore Scodinzolini, prima intervenuto in trasmissione. Scodinzolini. Sì, Scodinzolini. Sì, guardi, va benissimo quello che lei vuole. Io non amo molto questo tipo di, per carità, poi lei lo può utilizzare, questo tipo di... Che ha un tono ironico. Certo, assolutamente, per carità, però il tono ironico, c'è tono ironico e tono ironico, nel senso che a me queste cose che riguardano, ripeto, in questo caso non è un'offesa personale, cioè dei diminutivi, questa roba qui, non sono un appassionato, però per carità. No, è un giudizio... Comunque lei dice, è intervenuto Scodinzolini? Dico, al di là del suo giudizio, credo che sia inequivocabile il fatto che Berlusconi prenda atto di questa sconfitta politica. Che c'entra Scodinzolini, scusi? Insomma, ha sostenuto il fatto Minzolini, chiamiamolo col suo vero nome, ci mancherebbe. No, ma anche Scodinzolini, come vuole. Allora? Deve rimanere, io credo invece che Berlusconi debba a questo punto... Vabbè, dimettersi, benissimo. ...salire il collo e dimettersi. Vabbè, tutta l'opposizione dice... Gli hanno chiesto, cioè consigliere di opposizione a Milano, faccia capogruppo dell'opposizione. Vabbè, ma la sua è una gentile e pacata ironia, insomma. No, ha chiesto di direttore su questo, giustamente Parenzo ricordava l'episodio di D'Alema. Io, sì, Massimo, però devo dire la verità, non è che le dimissioni di Berlusconi sono obbligatorie, cioè noi possiamo ragionarci infatti, politicamente. Sono un gesto di coerenza politica. Ma non è vero, questa è una stupidaggine. Ma anche D'Alema non c'entra niente allora. Col gesto di coerenza politica, non c'entra assolutamente nulla. Primo perché la coerenza in politica vattela a pesca, secondo perché non c'entra niente, perché non è necessario, cioè, finché siamo una maggioranza in Parlamento, finché in Parlamento la maggioranza non c'è più, nel senso che è una maggioranza come Massimo, c'è una maggioranza numerica in Parlamento, c'è una maggioranza numerica, ma scusi, vogliono fare un governo, c'è la sinistra che a lungo, prima di convincersi che adesso bisogna andare a votare, a lungo voleva fare un governo istituzionale, non votato da nessuno, non eletto dai cittadini, per fare un governo, per fare la legge elettorale, i provvedimenti economici, dicevano, adesso hanno cambiato idea e dicono sì, la legge elettorale e in realtà possiamo andare a votare, insomma. Di che stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Secondo lei si deve dimettere? È una posizione legittima? È una posizione legittima la sua? Berlusconi, secondo lei si deve dimettere? Benissimo, cioè, vuol dire, è un mantra che l'opposizione non è che lo dice adesso, lo dice dal primo giorno che c'è Berlusconi. Intanto la maggioranza di Parlamento, le faccio presente che non è più quella uscita dalle urne, nel senso che una maggioranza, come dire. Sì, ho capito, ma questa è un'altra valutazione. Però le maggioranze si formano in Parlamento e quindi così è per ora, no? Cioè, per adesso così è, c'è una maggioranza in Parlamento, è quella che è, cioè, ci sono alcuni personaggi che hanno l'opposizione che adesso sono con la maggioranza. Personaggi che invece erano passati i confini e poi sono tornati indietro. È una maggioranza che si regge grazie all'apporto dei disponibili o sì, ma all'interno dei responsabili, non è che sono tutti quanti erano tutti quelli che, eletti con l'opposizione, non è così, comunque. Però i numeri sono, come dire, i numeri sono un po' ballerini, sì. Però in realtà non troppo, perché la maggioranza il governo ha superato diverse prove dal 14 dicembre, ci sono state anche alcune fiducie. Per cui, insomma, questa è la quando quell'episodio del 2000, D'Alema, sbagliando, come dire, pubblicizzò le elezioni regionali, ma come dire, con estrema coerenza, disse. Ma non è vero, no, no, lo fece perché sapeva di essere arrivato in quel posto con una manovra di palazzo, no, come si disse all'epoca. Cioè, era richiesto di farlo. Però fatto, D'Alema chiese la prova, no, no, perché sennò si capisce. D'Alema chiese il voto alle regionali perché sapeva che era arrivato a quel posto con una, in quel posto con una manovra di palazzo, come gli diceva all'epoca il centrodestra. Quindi chiedeva una legittimazione dalle regionali. Dal punto di vista istituzionale, parlamentare, non era assolutamente richiesta questa come... Ma no, ma infatti non era richiesta, infatti... alcuni suoi consiglieri erano addirittura contrari. Una coerenza politica, come dire, quando un personaggio... Ma secondo me sì, secondo me all'epoca fu coerenza politica perché sapeva che era arrivato alla presidenza, alla presidenza del Consiglio eletto, senza essere eletto. Quindi chiese il voto al, delle regionali per confermare questa cosa. Gaetano Saia? No. Buonasera. Buonasera, no. Buonasera, oh, buonasera, signor Giuseppe Cruciani, a lei a tutta la zanzara. È il come patacaro, sta? Il patacaro, ma ancora lascia, chiamato. L'amico, l'amico di Cento, perché non glielo dici? Perché non glielo dici le truffe che faceva lei il è tuo un editore, patacaro. L'amico il tuo editore Gian Gaetano, truffatore, diglielo. Io non sono Gaetano, chi? Se faceva il tuo editore. Senti, criminale. Allora, sulla vicenda del giornale che ho diretto, io mi sono dimesso a gennaio. No, vergognati, vergognati, cretino patacaro, vergognati, vergognati, patacaro, patacaro, cretino. Ma di che state parlando? Sta parlando perché il signor Pederasta Finocchio. No, no, no, no, pederasta, pederasta Finocchio, no, signor Saia, scusi. Lei mi pagherà la casa, lei mi pagherà 30 anni di mutuo, patacaro. Ciascia aveva definito gli uomini in 5 categorie: uomini, uomini, uomini, ruffiani e qua, qua, qua. Tu sei papè, non sei neanche nelle 5 categorie di sciaccia. Che cos'è papè? Papè, che vuol dire papè? Papè vuol dire proprio nessuno. Nessuno, scusi, niente, signor Saia, lei è il capo che ha tirato fuori un'insinuazione gravissima. Patacaro, ma nessuno, patacaro, patacaro, patacaro, scusi, non è un mio amico, non è un mio amico il dell'editore Caso, non è un mio amico, vergognati, non è un mio amico, vergognati, mi sono dimesso. Ma di che state parlando? Io mi sono dimesso, vergognati. Ma di che state parlando? Sta parlando del mio ex editore, il signor Caso. Ma chi è? Che ha avuto una vicenda giudiziaria non indifferente per un crack clamoroso, una truffa che qual ha fatto, è? E io, ex editore del Clandestino, io mi sono dimesso 3 mesi prima che arrestassero quel signore che con me non ha nulla a che fare. Patacaro, Saia, sei un patacaro, vergognati, patacaro, ruffiano pederasta Finocchio. Ma che io c'entra? Ti querelo e mi rifaccio la casa, patacaro. Sì. Ah, dico a mia moglie, allora fai pure questo, patacaro, e ti faccio la scorreggia e ti sbianco i capelli, come dici. Ma lei, a ma lei è scusi, Saia, lei è il segretario del Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale. Ma questo è un poveretto. Ma questo è un poveretto. Lei è il segretario del Movimento Sociale Italiano Destra. Il DM sta per demente nazionale. Voi demente nazionale. Porta portare Parenzo che mi insulta e poi pretendete che io sia. Ma lei, io signor, non ma lei è un poveretto. L'ex vabbè, ministro Pisano. Tu la devi smettere quando adesso ce la borsa. Come la disse il ministro Pisano, l'ex ministro Pisano la definì un patacaro. Lei è un patacaro, patacaro demente. Se stufi di vederti tutti i giorni alla TV, prometti tante cose che poi non mantieni più. Il mio papà è disoccupato e come si farà? Oh, caro Parenzo, che vergogna, questa canzone, che vergogna. Io la rimetto una sempre vergogna, perché la gente si renda conto che questi, ma che c'è, adesso lascia perdere Saia, che è collegato con noi, che è il responsabile, mi segretario la casa, con tutti i soldi che vabbè, gli porto adesso via, calma un attimo. Segretario del Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale, ci parla dallo stretto di Messina, avete sentito anche la sua voce con questo accento profondamente messinese, siculo. Però voglio leggerti una cosa molto seria, che ho letto su questo bel quotidiano che si chiama L'Inchiesta. Sì, bello, buono quotidiano L'Inchiesta. Online. Leggo sempre L'Inchiesta io. Anch'io. C'era una cosa interessante su Milano e gli immobiliaristi. Il noto finanziere Francesco Micheli al Corriere, credo, sì, oggi, no? Milano può diventare più bella a patto di non lasciarla nelle mani degli immobiliaristi. Lo stesso Micheli, contemporaneamente, a Salvatore Ligresti, nell'ottobre scorso ha acquisito una quota rilevante di Heinz Italia SGR, società che gestisce il più grande progetto di sviluppo immobiliare in corso a Milano, quello di Porta Nuova, caratterizzato dagli indici volumetrici elevatissimi e ben superiori a quelli consentiti dal piano di governo del territorio successivamente approvato. Infatti il titolo che leggo qui su Twitter è: investire nei superprogetti e fare la morale agli immobiliaristi? Si può, nel caso di Micheli, secondo quello che scrive l'inchiesta, si può. Bello questo giornalismo, bello, dell'inchiesta, bello. È un bel, bravo Tondello. Bel bene, modo di fare, signor Saia, signor Saia, ma è vero che il suo movimento ha appoggiato la sinistra in queste elezioni? Verissimo, verissimo. Scusi, ma quanti siete voi? Quanti siete? Non tanti è che... voti. Come tanti voti, tanti adesso voti. Non esageriamo, signor Saia. Tanti voti. Gli dica a Parenzo che poveretto c'è lui, perché poveretto cerebralmente. Lo è diventato lei dopo quello che ha detto oggi, poveretto. Vabbè, adesso calmatevi. Ma detto all'amico tuo Gian Gaetano, pensa. Ma ancora, non questo Gian Gaetano. Ma finiscila, Parenzo. Vabbè, fammi parlare amico. Con Cruciani. Non è un mio amico. Quando Cruciani fa una non domanda è mio amico, a me, asino. Un attimo, non è un mio un amico, attimo, il signor un caso, attimo. Anzi, Saia, tutt'altro. Saia, io voglio capire una cosa. Voi, Movimento anzi. Sociale Italiano Destra Nazionale. Sì. E lei ha fatto delle dichiarazioni. Abbiamo raccolto i voti della base della Lega che non volevano più votare. Ma Lega. Quanti voti avete raccolto? Scusi, non mica li appoggiavate questi qua? Su cioè non, non eravate in lista voi? No, che significa? Non eravamo in lista, mica eravamo nelle liste della sinistra. Appunto. Però abbiamo dato indicazione di voto di votare. Sì. A sinistra. Ma quanti iscritti avete voi come Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale? Neanche sua moglie, in tutta solo Italia. In tutta Italia, sì. Circa 20.000. 20.000? No, certo. Sai, non ci credo, nemmeno se lo vedo. E potrà anche non crederci. Cruciani, facciamocelo scivolare addosso però. Beh, che cosa lei dice sono 20.000 certificati. 20.000 certificati. Certificati. Sì. Da lui, dal Patacaro. 20.000 e più allora, se sì. Proprio vogliamo. Certificati dal Patacaro. Da quello che perché Pisano, perché Pisano l'ha definito un patacaro, sedicente 007. E tu sei un travestito, un attimo, non attimo, è un'offesa, non è un'offesa essere travestiti. Ma sta zitto, perché si travesta, parlo ma lo sanno tutti. Allora, ma lui non si offende questo, però, io non si offende. Guarda che io non mi offendo, comunque io ho già rifatto con queste sue parole il tetto della casa, la cucina. Bravo. E pure il giardino. Aspetta, allora sei il ruffiano travestito finocchione, così ti fai pure. Ma scusi, ma bravo, scusi, bravissimo, perché, poveretto, questo perché è un poveretto, è da internare il poveretto. Ma perché lei è così accaduto? Ma io ti faccio internare a te, scusi. Invece nei campi di lavoro, ma quanto prima. Allora, ma il signor Saia, gli amici Ocra che ti verranno a prendere all'alba, parente. Scusi, ma lei è così, diciamo, come dire, destrorzo e poi ha dato indicazioni ai suoi elettori, tra virgolette, di votare a sinistra, scusi un attimo, signor. Già detto l'altra volta, il fascismo era un partito con un programma di sinistra diretto da un socialista Benito Mussolini. Ma perché non lo arrestano sto Saia? Dove si perché trova? Dovrebbero arrestarlo? Dovrebbero arrestarlo uno perché? Così. Perché apologia del fascismo, apologia del fascismo. Ma no, perché fa ma poveretto, adesso fa un danno a sé e a quelle poche persone che gli stanno incontro. Arrestarlo per la sua incolumità, perché chiaramente. Ma devono arrestare me perché vi travesti allora, per strada. No, è un travestimento è vietato. Ma perché è un'offesa? Perché anche lei... travestimento è vietato. Non è una perché lei ce l'ha tanto con gli omosessuali? Guardi, scusi, la... No, io ce l'ho con Parenzo. Vabbè, ma anche lei ce l'ha anche con gli omosessuali, non è dette di cotte di crude. Parenzo, chiare, dolci, fresche acque, perché tu sei un cittadino, Parenzo, tu non sei un cavallo, io ti devo rispettare. Ma questo che mica c'entra con la democrazia, Parenzo? Ma chi cita? Sciascia, sei matto. Allora, il signor Saia, sappiano i radioascoltatori della Zanzara, ha scritto sul suo sito che viene ingaggiato dai servizi segreti della NATO, che è esperto in informazioni, sabotaggio, propaganda e guerriglia. Lei è un buffone, ha capito? Lei è un buffone, esperto in sabotaggio. Ma i servizi segreti sono roba seria. Se lei ha scritto che è della NATO. Lo sai qual è? 009 dottore Mafalda, in arte Parenzo. Ma 009 qual è? 009. Come no? Non ti chiami 009 dottore Mafalda, in arte Parenzo. Guardi, lei è segretario di un cosiddetto partito e ha scritto ha scritto nel suo congedatosi dai servizi e messosi in sonno massonico, decide insieme a un gruppo di provata fedeltà. Ma lei è uno che scrive delle cose così, deve essere arrestato subito per infermità mentale, uno così, capito o no? Ma deve avere il curriculum. Gollum che stai con un truffatore come l'amico tuo Gian Gaetano. E infatti mi sono dimesso tre mesi prima, infame. Signor Zaia, mi sono dimesso tre mesi prima. Non ho nulla a che vedere con quel signore lì. E spero che venga condannato. Condannato il signor Caso. Condannatelo. Vai, basta, basta. Signor Zaia, scusi, ma che ha a che fare con Caso? Bugiardo. Mi sono dimesso, bugiardo. Bugiardo, chiedi scusa, bugiardo. Ecco qui, signor Zaia, truffa aggravata, oltre 200 milioni di euro. Mi sono dimesso da quel giornale tre mesi prima. Basta, signor Zaia, signor Zaia, scusi un attimo. Mi sono dimesso tre mesi prima, infame, tre mesi prima. Signor Zaia, basta, signor Zaia, scusi un attimo. Scusi un attimo, signor Zaia, ma le famose ronde dove sono andate a finire? Le famose ronde per andare a catturare a Parenzo. No, guarda, ma quali, lei poi ste ronde non l'ha più fatte, diciamo. No, non è vero che non le abbiamo fatte, sono pronte, sono ronde occulte, non le vedete voi, magistrato. Ma quali ronde occulte, signor Zaia? Perché non c'è bisogno perché delle ronde. Sono in borghese, no? Ho capito, ma a che servono ste ronde occulte? A catturare Parenzo. No, vabbè, ho capito, adesso finché scherziamo va bene. Scusi, però mi spiego una cosa, perché vuole fare quando si dicono le cose vere non va bene. Scusi un attimo, signor Zaia, perché vuole fare segretario Scilipoti del suo movimento sociale? Anche perché Scilipoti una persona per bene. Lo ha detto anche Berlusconi oggi, però, il suo nemico adesso. Lo ha detto anche Berlusconi oggi, che adesso è diventato il suo nemico. Non ho capito, scusa. Allora, Berlusconi oggi ha detto che Scilipoti è una bravissima persona, una persona stupenda, una persona per bene, una persona e che non mi toccate Scilipoti. Lei dice la stessa cosa di Berlusconi, però lo vuole fare diventare addirittura il segretario del suo partito, il Movimento Sociale Italiano, certo, Destra Nazionale. Certo. Ma perché lo vuole far diventare segretario? Noi lo facciamo diventare coordinatore, poi non è che è detto, noi gli abbiamo fatto una proposta, dobbiamo vedere se Scilipoti accetta. Beh, che ha detto perché fino adesso? Scilipoti ha fatto un manifesto del suo movimento dei responsabili, che è un manifesto che ricalca la nostra ideologia, parla di Dio, patria, famiglia. Cioè, ma no, veramente è ripreso dal fascismo, eh? Qualcun altro l'ha ripreso da Gentile più che dal fascismo. Beh, anche dal fascismo, insomma, voglio dire, anche dal fascismo, insomma, la storia sai, vabbè, dal fascismo. Cioè, lei, allora, cosa c'è di male? No, vabbè, oddio, cosa c'è di male? Adesso non esageriamo, adesso qualcosa di sbagliato il fascismo l'avrà fatto, signor Zaia. No, Zaia, assolutamente no. No, niente di male ha fatto il fascismo. No. Leggi razziali non vanno le bene. Le leggi razziali erano leggi di un legittimo governo, mi scusi, non ho capito. Sì, allora, fra 100 anni qualcuno dirà che le leggi di Berlusconi erano leggi razziali. Ma si può arrestare sto signore? Poi in quel momento erano le leggi legittime. Ho capito. Di un legittimo governo. Beh, certo, su questo non c'è dubbio. Il legittimo governo non lo so, ma insomma, che fossero leggi. Era un legittimo governo. Vogliamo mettere in dubbio che il fascismo fu un legittimo governo. Adesso lasciamo perdere questa. Mussolini era il presidente del Consiglio. Vabbè, lasciamo perdere la questione legittima o no, però anche i governi legittimi possono fare degli obbrobri, delle porcherie e delle schifezze e addirittura delle mostruosità, o no? Dipende dai punti di vista, no? Ma come punti di vista? Che ci discuti anche con questo qua? No, è così, per capire. Per capire cosa? Con te, Valenzo, da un ex... Cosa vuoi che discuta il ministro, Giuseppe Pisano l'ha definita un patacaro, sedicente 007, lei fa ridere. E se definiscono ruffiano, finocchio travestito. Ma perché finocchio? Ma perché lei... Ecco, ma perché dicono che si traveste la sera? No, parla, ma scusi, parla, insulto, ma lei che cosa... Ma lei che cosa... Ma lei vada ad informarsi cosa fa. Ma lei cos'ha contro i travestiti? Signor Zaia, cos'ha contro i travestiti? Ma ascolti, Parenzo la sera... Ma lasci perdere Parenzo, lei che cosa... Se va su questo... Si mette la parrucca bionda, se va su questo piano, c'è il suo numero di telefono su tutte le... Guardi, nei bagni della stazione centrale di Roma c'è il suo numero di cellulare. Quindi... Ma sì, perché l'abbiamo messo assieme, Parenzo, ti ricordi? Si stava assieme nel bagno. Vabbè. Che poveretto. Signor Zaia, sentiamo... E ride anche. Sentiamo Vincenzo da Roma. Meglio, buonasera, signor Vincenzo. Meglio. Vincenzo? Pronto? Mi sente? Sì, io la sento. Dica. Lo volevo complimentare per il nuovo incarico che Silvio le aveva dato. No, veramente non mi ha dato nessun incarico. Posto di Capezzone. Ah, io sono stato nominato nuovo portavoce del PDL? Sì, così ho saputo io. Ah, bene, non lo sapevo. No, anche perché la trasmissione è veramente eccezionale, cioè tira solo da un lato. Tira solo da un lato. Di quelle che sono i perdenti adesso. Lei non ha capito nulla, Vincenzo, ma va bene lo stesso. Cioè, lei non ascolta, no, oltre a non ascoltare nulla, evidentemente, no, di quello che facciamo qui, ma va benissimo. Allora ascolta con un solo orecchio, forse, per carità, non voglio essere offensivo. Ormai lei diventa una barzelletta la sua trasmissione. È diventata una barzelletta, infatti lei si preoccupa di chiamare e di restare anche minuti e minuti in ascolto per dirci che è una barzelletta. Benissimo, Vincenzo. Ottimo. Vabbè, oltre a questa stupidaggine che ha detto, vuole aggiungere qualcosa? Come no, volevo aggiungere che effettivamente tutto quello che sta dicendo su Milano, cioè io la penso in modo opposto di come lei. Chiama Balilla, cioè tutto. Ma questo non c'entra niente con Milano, Balilla, è una canzone messa in rete da alcuni signori che ancora non abbiamo identificato e che secondo me è una stupidaggine colossale, perché non si possono mettere in mezzo i bambini a discutere di politica, non mi pare un giudizio su Milano, sulle elezioni e nemmeno su Berlusconi. Per carità, cioè, Berlusconi c'è tanto ormai che lo difendono, ce ne serviva un altro in più che lei. Vabbè, ma insomma lei sta delirando, ho capito, ma ha bevuto qualcosa? Sì, ho bevuto un po' di la zanzara. Ha bevuto un po' di zanzara, sì. Cioè, l'hanno pizzicato le zanzare, le hanno dato qualche puntura eccessiva, mi sa. Comunque io le consiglio di riascoltare la trasmissione che fa, così si rende conto di come è diventata una trasmissione che è tutto tranne che una trasmissione. Sì, e lei perché l'ascolta? Sembra che sia condotto non da un giornalista, ma... Ma lei perché l'ascolta? Un lacchè di Berlusconi. Perché lei l'ascolta, scusi? Com'è? Perché lei l'ascolta? Per farsi del male? No, non l'ascolto, io l'ascolto solo effettivamente perché è da tante sere che sto cercando di prendere la linea e non ci riesco. Di smettere. Per dirle solo effettivamente queste cose che penso sulla tradizione. Benissimo. Perché vabbè. Ascolto, preferisco ascoltare quello di Forbice, che è molto più seria. Certo. Però ha telefonato. Però ha chiamato qua, chissà perché. È rimasto pure in attesa per una mezz'oretta. È rimasto qui in attesa per una mezz'oretta. Ti odio e poi ti amo e poi ti odio. Vabbè. Signor Vincenzo, io la voglio bene. Anch'io. La voglio molto bene. Pronto? Anch'io. Le voglio molto bene. Pronto? Mi vuole bene lei? Come no? Bene. Specialmente a Parenzo. L'abbraccio. L'abbraccio. Arrivederci. Traffico. Questa è la zanzara e non c'è dubbio, naturalmente, 800 24 0024. Abbiamo sempre in collegamento con noi il signor Gaetano Saia, segretario del Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale, in collegamento dallo stretto di Messina con Parenzo che sbuffa. Sì, chiedo scuse ai radioascoltatori se ho esagerato dei toni, ma il signor Saia è veramente una brutta persona. Ma qui è tutto consentito. Ma devi smettere, Parenzo, il signor Saia non lo devi nominare, lo com'è so che com'è la sua me, la sua è innamorato di sé. Non ti voglio, qual è la sei brutto. Zitto, pataccano. A che punto è l'inchiesta? A che punto è l'inchiesta sulla famosa questione delle ronde nere, signor Saia? Ma allora, l'inchiesta sulle ronde nere non ce n'è mai stata. No, scusi, sulla polizia parallela, mi perdoni. Non luogo a procedere perché il fatto non sussiste. Lei era stato accusato nel... Che anno era? Non 2005. Luogo a procedere perché il fatto non sussiste. Benissimo, vabbè, ho capito. Lei è davvero esperto in informazioni, sabotaggio, propaganda e guerriglia, controspionaggio e antiterrorismo. È una domanda, Saia. È una domanda. Quando vuoi andiamo in cima a una montagna e ti dimostro come sono esperto, Parenzo. Guarda, cioè... neanche io mi leggo la mano destra dietro e te ti lascio tutte e due mani libere. No, vediamo chi scende dalla montagna. No, il suo problema è la faccia, capito? Il suo problema è la faccia, basta quella. Ah, vabbè, vedrai la tua di faccia. Vabbè. Vedrai come il culo. No. Bravo, siamo a quota, dunque ho comprato anche uno stabile vicino dopo questa serata. Guarda, metti pure la dependance, così la sera mi viene a trovare. Lo so che sei innamorato di me, sì, Parenzo. Sì, lo chiedi a sua sorella. Brutto, non ti scusi, certo. Però scusi, sai, lei mi ha detto sua sorella, a proposito degli omosessuali, ha detto una cosa, la voglio ripetere anche l'altra volta, l'abbiamo detto, però non abbiamo avuto il tempo. Ma perché devi ripetere queste porcherie che dice? Ha detto possono lavorare tranquillamente ma senza io essere non visti. Allora ascolti, Cruciani, lei è una persona. Legga Cruciani. Questa frase venne estrapolata da una presunta intercettazione di fatto mai avvenuta, falsa. Ho capito, ma lei... Quindi è un'invenzione giornalistica. È un'invenzione giornalistica, niente. Io, Cruciani, lei è una persona per bene, non credo che si attacchi a certe la cose. Loro presenza devia la nostra... Non l'ho mai detta, benissimo, la loro presenza devia la nostra società, l'ha detta o no? No, come? La nostra la presenza degli omosessuali devia la nostra società, l'ha detta o no? Questa sì. Questa sì, insomma, non è che fosse così non è che è diversa. Ma io le cose così. Che dico le chieda scusa. No, chieda ma infatti scusa. Lui è, chieda scusa. Chieda scusa. A chi devo chiedere scusa? Per queste cose vergognose che ha scritto, chieda scusa. Io non chiedo scusa perché io non mi pento mai di quello che scrivo e faccio, Parenzo. Beh, incapace di intendere di voler, dai. Parenzo, il giorno che ti faccio fucilare, minacce? Ah, esperto in propaganda e guerriglia. Perché io sono esperto in ISPEG, si dice, non tutta la viridera che fai tu, Parenzo. Diego, della provincia. Io lavoravo nell'intelligence, tu a fare il giornalato. Ma quale intelligence? Ti manca il cervello, ma quale intelligence? Le manca il cervello, gli manca. Gaetano Saia, un attimo, Diego, dalla provincia di Venezia, buonasera. Buonasera, io mi scuso perché ho perso un po' di trasmissione perché ero in macchina. Sì. Volevo innanzitutto dire grazie per la canzoncina, vi ho mandato anche un sms. Sì. Perché non la conoscevo. Sì. Adesso che lo conosco reputo che sia una cosa positiva. Cosa che cos'è positiva, scusi? Glielo dico, negativa nei toni utilizzati. E cos'è positiva, scusi, cos'è positiva? Allora, come la interpreto io, è utile per far focalizzare l'attenzione sul futuro dei bambini. Sulla? Sul futuro dei bambini? Un attimo, guardi che chiamo l'ambulanza immediatamente, No, se lei mi interrompe non può capire il mio ragionamento. Capito, faccio un ragionamento sensato però che abbia soprattutto un termine. Mi dica. Sarà anche un po' contorto, però io che ascolto la canzoncina mi sembra di capire che c'è un suggerimento al signor Berlusconi di dire attenzione che quello che fai si ripercuote nel futuro dei bambini, sono i bambini a dirtelo, siamo noi a dirtelo. Questa è una parentesi, il mio intervento non era è solo un'opinione che secondo me la canzoncina è sbagliata nei termini, sbagliata con le parolacce, però il senso è quello. E attenzione, qual è il senso, scusi, qual è il senso? Il senso è quello, attenzione che tutto quello che stai facendo si ripercuote nelle famiglie, si ripercuote nel futuro dei bambini. Diego, lei non è, anche lei ha bisogno di qualche cosa di serio, glielo dico, di qualcosa di serio anche lei, qui non c'è nessun senso, c'è solo l'odio. Ma devo chiudere, signor Saia, alla prossima. Viva Messina. Buonasera, un bacione a Parenzo sulla bocca. A domani 18:30. Poveretto. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me la segni proprio. C'è una cosa. Non vi preoccupare. Radio 24. La passione si sente.